בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Giovedì 24 ottobre 2013, buonasera da Agostino Spolaore e come sempre buonasera anche dal mio inseparabile compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questo dovete segnarvelo anche voi sul calendario. Assolutamente. Avere avuto così tante donne in studio, anzi in sala con te Maurizio, questo sia una cosa... Ah, che bello, bellissimo. Mai successo. Quante siete? Vi siete contate? Una ventina? Le ragazze quante sono stasera? Una quindicina di ragazze. Tutte vicino a te. Esattamente. Quanto sono nella fossa di leoni stasera, bellissimo. Una cosa meravigliosa. Quanto fortunato sei. Ah, sto benissimo. E 15 ragazze perché? Perché sono le rappresentanti, o meglio, insomma, una parte insomma della compagnia tipo come, poi mi spiegheranno se ho detto bene e poi anche cosa significa, che questa sera presenteranno in anteprima qualche, come dico sempre anch'io, qualche, come dire, qualche notizia, qualche qualcosa che magari può sfuggire, per conoscere di più quello che sarà il musical che si terrà sabato prossimo al io stasera sono emozionato. Al polivalente di Alvignasego, cioè nel Rassegna Sognando Broadway, che sapete questa sera è la terza puntata di delle sei insomma che saranno presenti qui in studio e poi ovviamente ci sarà anche lo spettacolo il sabato successivo. Ovviamente c'è Cesare Bortolotto con me, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima, come di consueto, io devo sempre dare i nostri dati. Allora, il nostro numero telefonico in studio, che vi ricordo, è lo 049 875 6423, e poi ancora il numero per i vostri SMS, che questa sera io lo dico piano così magari ve lo segnate con tutta tranquillità, perché vi servirà per partecipare a una semplice domanda, e chi risponderà esattamente, correttamente, alla prima persona insomma avrà diritto a ricevere due biglietti omaggio per l'ingresso appunto al musical di sabato prossimo, che si terrà, ripeto, al polivalente di Alvignasego, sabato 26 ottobre. Allora, il numero dei vostri SMS è il 346 23 20 033. Lo ripeto, 346 23 20 033. Nel corso della trasmissione vi verrà fatta una domanda, il primo che ci darà la risposta esatta quindi si porta a casa questi due biglietti, quindi dovete prestare attenzione. Io lo ricordo ancora, che magari qualcuno è arrivato adesso. Allora, 346 23 20 033. E poi ancora le nostre frequenze, 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, questo per quanto riguarda il Veneto, mentre siamo in streaming per tutto il mondo. Ci stanno ascoltando, la settimana scorsa abbiamo avuto dalla Colombia. Esattamente, sì. Abbiamo avuto ascolti dalla Svizzera, dalla Scozia. L'altro giorno dall'Argentina. Dall'Argentina, il Brasile, poi insomma fedele. Insomma, siamo ascoltati un po' in giro, questo ci fa veramente molto ma molto piacere. L'Australia, non dimentichiamo anche l'Australia. E poi via via anche tutte le altre nazioni che ci stanno ascoltando, le salutiamo caramente. E poi cosa vi devo ancora dire? Le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, lì trovate tutte le informazioni inerenti a quello che succede in questa sede per quanto riguarda la musica. Invece nel nostro sito, cioè www.bluradiovento.it, lì potete trovare tutte le informazioni inerenti alla nostra regione, ma anche non solo, e fatti di cronaca e anche musica ovviamente. Ci sono tutte le recensioni, c'è anche quella di questa sera ovviamente. Per quel che mi riguarda, nelle mie trasmissioni è curata da Maurizio Calzavalle, ed è giusto sottolinearlo questo. La ringrazio. Perché insomma tu dici sempre dalla redazione. Dalla redazione. La redazione siamo ma noi. Per quello che mi riguarda sei tu che fai, quindi atto a te che fai queste cose meravigliose. Tra l'altro ho sentito prima che dicevano che ha fatto una bellissima recensione, vero? Me lo confermate? Confermiamo. Perfetto, allora e lì nel nostro sito appunto ci potete ascoltare in streaming, basta cliccare semplicemente su Ascolta la radio e potete sentirla in diretta 24 ore su 24. Agostino Spolaore, Maurizio Calzavara, ma soprattutto questa compagnia tipo come. Benvenuti ragazzi. Grazie. Maurizio. Dunque, sono tantissimi, però è bello, è positivo, la radio dà emozione, sono molto emozionate anche loro, anche noi siamo emozionati, ma fa parte della radio. Una cosa importante che ho visto, che ho letto, nasce dalla fucina della parrocchia. Le parrocchie di solito davano la possibilità o di fare una band, di suonare, oppure di creare del teatro. Non è così? Esattamente. Nella nostra parrocchia, la parrocchia di Mestrino, ci sono tre gruppi teatrali, se non addirittura quattro. Noi nasciamo un po' su questo sfondo. Noi abbiamo sempre collaborato con gli altri gruppi teatrali, facendo piccole parti. Eravamo i ballerini, eravamo sì, gli attori giovani, come si suol dire. e abbiamo deciso di uscire un po' allo scoperto, di fare qualcosa di nostro, di vostro, totalmente nostro. È una cosa positiva questo. E l'idea del progetto è nata piano piano, si è sviluppata, si è allargata? Sì, è nata piano piano nel giro di 3 anni, nel senso che prima di questo spettacolo noi siamo nati con un altro spettacolo organizzato per raccogliere fondi per poter partecipare in quanto parrocchia alla GMG della Spagna. Della Spagna, di Madrid, esatto. E lì abbiamo fatto questo spettacolo che si chiamava Ti porto con me, voci di una valigia. E non ci aspettavamo dell'enorme successo che ha avuto appunto questa messa in scena, e da lì ci siamo chiesti: ma ne vale la pena fermarsi oppure è il caso di andare avanti? È il caso di andare avanti, e siete andati avanti notevolmente, vi siete sviluppati, vi siete contagiati musicalmente, e non solo musicalmente, con il testo, col canovaccio e la musica, perché la vostra dichiarazione è molto bella: siamo un gruppo di giovani amanti del teatro, del ballo, del canto, in una sola parola, musical. Stasera è proprio la base del musical, è il giovedì del musical stasera. Sì. È proprio il giovedì del musical, nel senso che col musical si riesce a prendere gente che balla, che canta o che recita, o anche tutte e tre le cose insieme, che è la cosa un po' difficile, ma anche quella che dà più soddisfazione, perché si riesce a raccogliere più gente. Ecco. Sì, raccogliere più gente dai 16 ai 35 anni, chi ha raccolto, chi ha avuto l'idea di raccogliere, di... Cioè ogni persona ha una certa personalità, chiaramente, un modo di interpretare, di vedere, di sentire. Com'è stata questa raccolta, questa fusione di tanti elementi, di tanti personaggi, di tante persone, di tante teste? Allora, diciamo che nello scorso spettacolo c'era già un nucleo forte dalla parrocchia, e da quello poi noi abbiamo, dopo la attinto fine dello spettacolo, abbiamo attinto, abbiamo aperto alle comunità vicine, ai paesi vicini, esatto. E abbiamo proprio fatto dei provini, e insomma sono arrivati i nostri nuovi talenti, e da qui poi. Poi la cosa bella è che abbiamo una grande differenza di età, perché tra 16 e 35 anni c'è una bella differenza. Certamente. Età. Però non si sente. Senso perché che vi accomuna, esatto, il modo di fare, passione. La passione. E quella è importante, fondamentale. Cosa dice Agostino? Sono pienamente d'accordo con te. Prima però di continuare questa discussione con questa compagnia e con questo musical, che ricordiamo si chiama Al di là del vetro, io volevo dare come sempre lo spazio giusto per il guru di questa manifestazione, cioè il boss, la nostra tappezzeria, insomma. Sì. Cesare Bortolotto, vieni qua, vieni vicino a me, che siete talmente tanti stasera che dobbiamo stringerci. Allora, sì, ho appena smontato la tenda qui. Niente, secondo gruppo in concorso, terzo musical e secondo in concorso, e secondo musical tra l'altro originale dopo Night Lives, questo è il secondo musical totalmente originale. Quest'anno abbiamo voluto rischiare un po' di più, diciamo, e prendere qualcosa di totalmente inedito a discapito, se vogliamo, dei musical famosi o comunque che sono già conosciuti, anche per far capire alle persone che magari hanno iniziato a venire a vedere Sognando Broadway soprattutto per determinati musical conosciuti, e fargli capire che in realtà ci sono molti molti aspetti del musical. Il musical scorso era molto molto imperniato su quello che riguarda il ballo, e questo a mio punto di vista è più recitativo. Loro tra l'altro hanno ci sono scritte totalmente i testi, e questa è una cosa molto difficile da uno che fa musical. So la difficoltà che c'è nello scrivere un testo originale. Mamma mia. Ho fatto Mamma Mia, ma in realtà Mamma Mia era già più semplice perché c'era già una cosa. Però i testi li avete scritte. Fatti un po' voi. I testi delle canzoni, loro si sono scritti totalmente, totalmente il testo dello spettacolo. Sì, difatti, appunto per questo, giustamente Cesare ha messo in considerazione questa frase, e una vostra dichiarazione, io spulcio dalle varie dichiarazioni che mi avete mandato, giustamente, per spiegare le cose. Avete detto questo: ci piace scrivere copioni che lascino qualcosa al pubblico. Questa è una bella frase, che lascino qualcosa al pubblico. Perché? Beh, al giorno d'oggi siamo un po' accerchiati da un intrattenimento un po' sterile. Nel senso che abbiamo la televisione, abbiamo i film. Purtroppo abbiamo la televisione e certe cose non lasciamo perdere, se no andiamo avanti, non finiamo più. spesso guardiamo un programma televisivo, lo guardiamo per un'ora e poi quando è finita l'ora ci diciamo, beh, adesso cosa ho appena visto? Esattamente. E noi volevamo provare, non so se poi ci siamo riusciti veramente, però noi ci proviamo a fare, a portare in scena qualcosa che dopo averlo visto per due ore e mezza, la gente dicesse, mi è rimasto qualcosa. Ti è rimasto qualcosa. Poi un'altra cosa che ho letto, che cos'è il capo aria? Quella è una cosa che... capo aria, un'organizzazione da capo aria. Io ricordo qualcosa che io spesso e volentieri sento e vedo, però adesso me lo faccio spiegare da te. In realtà è un termine molto chic per qualcosa di molto semplice, diciamo, perché appunto essendo diviso nella parte core, nella parte attori, nella parte ballo, per ogni settore noi abbiamo un rappresentante che poi darà le fila dal direttivo. Stasera abbiamo una vivacissima maestra del coro. Esattamente. Bravissima maestra del coro. Proprio, dà proprio l'input, si vede proprio, dà proprio il tocco, il movimento lo esegue lei prima e poi voi lo eseguite. Esatto, è un'ispirazione. Esattamente. Bene, io però devo fare qualche nome, insomma, perché siete talmente tanti, però anzi volevo chiedere ancora una cosa a Cesare. Com'è stata la puntata precedente? La puntata precedente? Il musical precedente. Allora, per quello che mi riguarda, visto che noi siamo anche selezionatori, è ovvio che sono tutti spettacoli che ci piacciono, se no non li metteremo neanche in cartellone. E, cosa posso dire? È ovvio che essendo musical inediti, sono più difficili da far comprendere alle persone e anche da farli venire a teatro. In realtà comunque di gente ce n'era parecchia, non raggiungiamo i livelli di altri musical, però io sono soddisfatto perché questo è il terzo anno. Rispetto al primo anno, che c'era una media di 200 spettatori a serata, in questo terzo anno, e seppur avendo musical nuovi, l'abbiamo superata di gran lunga, cioè non possiamo dire di avere tutti esauriti, però ci andiamo vicino, insomma. Ma l'anno scorso è successo così, tutti esauriti. L'anno scorso c'era tutto esaurito, sì. Beh, ma l'anno scorso c'erano anche i musical conosciuti come nome, insomma. Sì, come ho detto anche l'altro giovedì, volevamo anche cercare di prendere tutti gli aspetti del musical e non essere etichettati come Sognando Broadway, cioè rassegna di musical per famiglie o comunque musical che fanno solo. Cioè, l'anno scorso avevamo tre musical della Disney, volevamo cercare un attimo. È ovvio che la maggior parte delle compagnie amatoriali puntano sui musical conosciuti, perciò i musical che ci arrivano per le richieste per partecipare, la maggior parte sono quelli. Certo, quindi onore ancora di più a questi ragazzi che stasera sono qui e che insomma stanno cercando di farsi conoscere con questo musical inedito, come dicevamo prima. Io faccio qualche nome e poi però ci ascoltiamo. Oh, prima ci ascoltiamo qualcosa che fanno loro. Cosa ci fate sentire, ragazze? In vacanza da una vita di Irene Grandi. Ok, e poi torniamo in studio e così cominciamo a parlare di quello che è questo musical, insomma, di quella che è la storia, la trama di questo musical, e presenteremo anche i vari personaggi, va bene? Tu sei, per esempio? Io sono Emanuela, regista. Una regista. Bene, allora siete pronti? Quando volete me lo dite, siete pronti? Noi possiamo andare. Siamo in diretta, assolutamente in diretta qui a Blu Radio Vera. Che cosa? Forse ho voglia di te, ma non riesco a trovare un fiammifero per guardarmi dentro. Non lo so cosa voglio, però ad ogni modo, allora cos'è tutto questo tormento che mi brucia dentro? Cos'è? Che cosa ho? Forse cerco qualcosa, qualcuno che mi porti via. Vivo perduta nel mare della mia fantasia, ed ogni notte un dolore che col sole va via. Io lo so, è una vita che questa mia vita va avanti così. E perché no? Vivo in vacanza da una vita. Perché no? Tra una discesa e una salita. Perché una ragione non c'è per me. Trovare acqua di fonte che si beve sotto un sole che bagna di calore. Perché no? No! Vivo ridendo. Perché no? No! Va bene così. Perché no? No! Vivo sognando in vacanza da una vita che è la mia. Che cosa? Che cosa? Resto sola in città a cercarti, non riesco a trovarti un solo difetto. Che cos'ho che non va? Che non riesco a dormire, continuo a rotolarmi nel letto. Vivo perduta nel mare, nella mia fantasia, ed ogni notte un dolore che col sole va via. Io lo so, è una vita che questa mia vita va avanti così. E perché no? Vivo in vacanza da una vita. Perché no? Tra una discesa e una salita. Perché una ragione non c'è per me. E perché trovare acqua di fonte che si beve sotto un sole che bagna di calore. Perché no? No! Vivo ridendo. Perché no? No! E va bene così. Perché no? E aspetto un colpo di vento. Perché no? Vivo in vacanza da una vita. Perché no? Tra una discesa e una salita. Perché una ragione non c'è per me. Un giro in bici e fermarsi a far l'amore sotto un salice piangente che ride. Perché no? Vivo in vacanza da una vita. Perché no? Discesa, una salita. Perché no? Sotto un sole, sotto un sole, sotto un sole che bagna di calore. Perché no? Trovare acqua di fonte che si beve. Perché no? Sotto un sole, sotto un sole, sotto un sole che bagna di calore. Perché no? Vivo in vacanza da una vita. Perché no? Maurizio, tu che eccoci qua, eccoci qua. Sì. Irene Grandi, abbiamo tirato fuori dallo scrigno, dal cappello Irene Grandi. Molto divertente, molto da gruppo, molto californiana, tra virgolette, molto colorata. Come mai Irene Grandi è una vacanza da vita? E il discorso della trama, si avvicina alla trama, parte del discorso universitario, di questo studente universitario americano che giunge in Italia, è così? Sì. Emanuela, ti chiami Emanuela? Sì, Emanuela. Perfetto. Sì, dimmi. Ci sta a pennello con la trama, nel senso da significato di vacanza, di dolce da una vita, far niente. Una vacanza da una vita. Esatto, dolce far niente. Dolce far niente, esattamente. Divertimento, gioia, spensieratezza, però d'altra parte c'è anche un po' la riflessione sotto. C'è la riflessione. La cantante si chiede perché no? Mm-hmm. All'inizio poi noi la facciamo in maniera un po' diversa, nel senso che poi all'inizio è molto meditativa, molto... Insomma, con la trama venite a vederci e scoprirete il perché. Esattamente. Poi una cosa... Insomma, possiamo allargare un po' il discorso, almeno per sapere in cosa consiste questo al di là. Sì, beh, la trama... La trama la possiamo dire, senza andare magari nei dettagli, che magari... Però, insomma, sì, allora, questa canzone... Per sapere di cosa si tratta, insomma. Certo. Allora, questa canzone è riferita in particolar modo ad un personaggio, ovvero la canta la nostra Vittoria, che è una ragazza, oddio, non più ragazza, nel senso che ormai è una donna adulta. 50 anni? No. No. Molto... No. 20 anni. 29. Questa ragazza, donna, come vogliamo chiamarla, ha 30 anni, però... Pensavo fosse l'Irene, che so che avrà 50 anni. Ha 30 anni, però vive ancora in un appartamento di universitari ed è ancora all'università. Ed è mantenuta dal padre. Ed è mantenuta dal padre. E comunque gli anni sono 29, non 30. Ecco. Puntualizziamo, Esattamente. E nel corso dello spettacolo succederanno un po' di cose anche a questa Vittoria. Vedrete che cambierà oppure non cambierà. Tutti matureranno un po'. A me interessa il discorso, la scelta del pezzo di Irene Grandi, perché aveva un ritornello, tanto il ritornello è molto da coro, ci sta bene da cantare insieme, e perché al di là del testo, perché Irene Grandi identifica mondo giovanile, esatto, identificava sì. Forse sì, è un po' un artista di mezzo tra la nuova generazione e la vecchia generazione, è un po' il perno secondo esattamente. Me e era giusto, era perfetta per questo personaggio, un po' il perno tra il mondo adulto e il mondo che invece vuole restare ancora un po' bambino. Certo, un po'. E una cosa che ho sottolineato, cari ascoltatori, voi non potete vedere, è l'input che ha dato la maestra del coro. Si è proprio scatenata nel ritornello. L'Anna, sì. Soprattutto nel ritornello, ha proprio dato là il ritornello, perché il coro doveva prendere, formare il ritornello che era fondamentale. La solista ha dato la pennellata solista, poi il ritornello del coro, che è la costruzione, è la base della canzone. Esattamente. Irene Grandi. Beh, tutti, il nostro spettacolo è fondato, noi ringraziamo sempre tantissimo il nostro coro, perché senza il nostro coro noi non andremo da nessuna parte, nel senso che davvero tutte le canzoni, il coro gli dà un tocco in più. Io mi sto preparando in morte di SF, che è una cosa molto interessante per me, ma poi ne parliamo a momento sì, detto. Parleremo. Io faccio un po' di nomi allora, come dicevo, vai. Insomma. Allora, abbiamo le registe, sono Manuela e Chiara, giusto? E sono io. Chiara. E sei tu, Chiara. Sì. Poi abbiamo il capocoro, abbiamo scritto qui, prendetela con la Manuela, con la Chiara, scusa, e ha scritto Anna, va sono bene, io. Sei tu. Il vocal coach è Filippo, eccolo là, poi insomma ne sentiremo un po' tutti, poi c'è i tecnici sono Lorenzo e Federico, giusto? Qui presenti, esatto. Sì. Qui presenti, maschi, maschioni. Gli attori, che sono tutti questa sera, i principali o manca qualcuno? Sì. No, sono tutti gli attori, siamo al completo. Allora, Chiara, che parte fa? Io sono Silvia. Che sarebbe? È un personaggio un po' particolare, Silvia, perché è una ragazza che universitaria, che vive appunto in questo appartamento con tutti gli altri e ha subito un lutto. E un po' tutto lo spettacolo si capirà che la sua storia ha molto di nascosto, insomma, è un personaggio un po' complesso, ma che lascia molto, soprattutto alle persone che hanno avuto un dolore recente o che si possono rispecchiare in una situazione difficile che bisogna superare. Ecco. Ho capito. Irene invece fa la cinquantenne, vero Irene? Sei tu la cinquantenne. Sì, diciamo che sono un po' la mamma di tutti questi ragazzi, diciamo. La mamma chioccia. Ci vedo mamma, infatti. Grazie. Prego. E niente, sono colei che dà consigli, colei che ascolta e che in qualche modo cerca anche di aiutare. Sei sempre presente, insomma, comunque, con i figli. Sì, sì. Lisa, invece, tu? Eccomi qua, Eccoti io sono qua. Vittoria. Tu sei Vittoria. Sono Vittoria, questa giovane 29enne. Giovane. Giovane. Che parte fa... Vittoria è una appunto giovane 29enne che però vive ancora in un appartamento di universitari e fa ancora l'università. Mantenuta dal padre, vediamo cosa succede in scena a questa Vittoria. Va bene, non ci volete svelare nulla. Elisabetta, invece tu? Sì, io sono Raja, una ragazza iraniana di 23 anni che arriva a Firenze con la sua storia un po' difficile. Ovvero è scappata dall'Iran dopo la guerra, dopo la morte dei genitori e soprattutto per cercare un lavoro, per mantenere il fratello, però in realtà diciamo che la sua motivazione inconscia è anche la ricerca della libertà e quindi nel corso dello spettacolo subirà un grossissimo cambiamento e riuscirà appunto a spiccare il volo, diciamo. Angelica. Dov'è l'Angelica? Sì, eccomi qua. Eccoti qua. Sì, io sono Diana, sono la migliore amica di Vittoria, però sono un po' una pazza perché sono fanatica dello sport e preparo delle bevande un po' strane, degli intrulli per dimagrire e niente, do un po' quel tocco divertente così. Quindi sei la parte comica Sì, assolutamente. Sono un po' comica, sì. poi abbiamo Maria Chiara. Sì, io sono Gaia e sono amica di infanzia di Matteo e Silvia e essenzialmente faccio la parte un po' di contorno perché faccio l'Accademia di Restauro di Firenze. Gaia è una tipa un po' così, alcune volte un po' tra le nuvole, un po' filosofica. Ed è l'altra parte comica. Anche lei. Esatto, sì. Sì. E niente, è appassionata di yoga e quindi ogni tanto si sbizzarrisce così. Allora, queste sono tutte le femminucce, abbiamo detto fuori. E ci sono poi i maschietti. Arrivano i pezzi forti. Luca e Francesco. Luca. Luca è Matteo, è il futuro professore di italiano. E, diciamo che un po' un personaggio all'inizio si caratterizza, è un personaggio un po' burbero, diciamo, ce l'ha un po' con tutti. Non toglieteli il suo libro perché diciamo, l'obiettivo vitale in quel momento, nei primi atti, è quello. Poi appunto subirà anche il cambiamento che caratterizza tutti i personaggi dello spettacolo. E invece Francesco? Sì, Francesco è Derek, è il classico George Clooney americano, diciamo uno stereotipo di il classico studente che finché ci sono i genitori a tenerlo a bada va bene, quando non ci sono più si scatena e anche lui dovrà imparare a crescere un po' e a prendersi le sue responsabilità. Certo. E poi abbiamo l'ecolista, almeno questa sera, poi insomma se c'è qualche altro personaggio casomai ce lo sì, dici. Gli altri personaggi sono, poi loro vivono, questi personaggi vivono in un appartamento e in un appartamento, siccome Vittoria, appunto il paparino di Vittoria paga sempre tutto, gli ha pagato naturalmente anche le colf e quindi ci saranno delle colf, una parte delle molto colf. Comico, molto comica. Delle colf, esatto. Signore colf. Signore proprio. Colf con la C maiutino, maiuscola, che... puliranno casa, faranno, cioè, loro si occupano di cambi scena e faranno dei cambi scena un po' particolari, un po' divertenti. E poi c'è appunto, dicevo, le coriste. Allora c'è Lara. Dove sei, Lara? Sì. Lara, dove sei? Fatti vedere. Lara. Lara. Lara, Lara, vieni qua. Eccoti qua. Ci sei? Sì, sì, ci Ciao. Sono. Tu cosa canti? Tutte le Beh, canzoni. Sì. Hai qualche gruppo alle spalle oltre a questa partecipazione al coro? O... Beh, un po' al gruppo della parrocchia, così. Sì. Non hai altre situazioni musicali alle spalle? No. No, no. Giulia? Giulia non c'è. Non c'è? No, sì, c'è, arriva. Giulia. No. C'è. Non vuole parlare. Giulia si nasconde. Si nasconde. Perché non vuoi parlare? Sei timida? No, pensavo parlaste dell'altra che non c'è. Beh, insomma, la salutiamo. La salutiamo. Ciao Giulia. Ma tu fai anche, una parte solista anche, giusto? Sì, minuscola ma sì. Poi abbiamo Alessia. Alessia. Sì, buonasera. Anche io faccio parte del coro. E... Anche tu? Sì, canto insomma. Canti, fai anche tu parte solista? No, no, parti solista è meglio di no. Ecco, insomma... Poi c'è Lucia. Passo la parola a chi? A Lucia. Bene. Una alla volta le facciamo sentire. Eccomi. Tutte perché mi sembra giusto. Lucia, tu invece, che anche tu fai parte del coro, qualche certo. parte solista? Anche no, tu? No. Noi coro siamo un corpo unico che ci fondiamo in un'unica voce. Hai anche altre situazioni musicali, qualche band alle tue spalle o canti Beh, solo così? No, canto, vabbè, ho iniziato con la parrocchia e canto nei gruppi parrocchiali come tanti di noi e niente, così. Sono di piccolina. Poi c'è Emanuele. Emanuele, dove sei? Manu. Ciao. Ciao, e tu invece? Tu fai solo coro anche tu sì, o sì, fai anche solista? Ho partecipato a qualche coro parrocchiale, però in questo siamo un po' una minoranza, io e Davide, ma dobbiamo tirare fuori la voce. Ma mi sembra che anche nel cast siete in minoranza, sono tutte donne stasera. È un argomento spinoso. Infatti, molto spinoso. Apriamo dopo. E poi c'è Elisa, che la voglio sentire parlare, tanto. No. Salve. Ciao Elisa. Ciao. Tu devi parlare tanto. Oh mamma. Perché me l'hanno chiesto. C'è un messaggio qui che dice: Ago, mi raccomando, dopo in trasmissione hai una mia amica, Elisa Vanzetto, chiamata Pandi, falla parlare tanto ma tanto. Volevo capire chi era il mittente di questo messaggio. Te lo devo Sarà dire. Un certo Dario Trevisan. Ma dai. Ciao Dario. Volevo approfittare per salutare una nostra fan, Giorgia Scarin. Senti, mi dicono qui, mi suggeriscono di chiederti qual è la tua cantante preferita. Emma Marrone. Eccola lì. E anche Forse... Luciano Ligabue. Ah, ecco, ecco. Doppio, eccolo. Dario, sei contento adesso, abbiamo sentito la Pandi. Pandi perché? Pandi è il mio soprannome. Ma perché? Dal cognome di mia mamma. Ah, poverina. E sì, è nato Pandi, è dalla terza media che me lo porto dietro. A parte questa goliardata, insomma, avete capito che avevamo a che fare con gente molto simpatica, ragazze giovanissime, praticamente sono veramente molto molto giovani. Che età media avete voi? Siamo un gruppo dai 16 ai 35 anni, di media, media sui 22, più o meno. 22. Sai che numeri io? 18. Allora, una cosa importante da sottolineare sulla trama, che io ho scritto che è una trama molto on the road. Perché on the road? Lui parte dall'America e viene a Firenze per bighellonare. Quello fa lui, cioè il protagonista, perché Firenze, gli americani, Firenze è una città meravigliosa per tanta gente, soprattutto i turisti e soprattutto gli americani. E porta però, nonostante tutto, porta il messaggio americano, il modo di comportarsi americano. I cosiddetti college li porta là, i college americani, li porta a Firenze. Li vede tutti corretti, e per quello il messaggio on the road, perché alla fine c'è un gruppo, una comunità di intenti, non è così? Sì, certamente, alla fine all'interno di questo appartamento si crea un gruppo, si crea il famoso, come hai citato tu, il gruppo del college. Il gruppo del college, io l'ho tirato fuori, ho parlato degli anni 60, West Coast, quindi peace and love, pace e amore, questo è il significato. Ah, chiaramente riveduto e corretto, molto ampliato, ma l'idea è quella di collaborazione totale fra di voi. Sì, noi abbiamo tra voluto, di voi protagonisti. Sì, noi abbiamo voluto giocare tanto sul protagonista Derek, sul sogno americano. Sul sogno americano, esattamente. Esatto, sì, questa sullo stereotipo dell'americano che viene il baby, it's social time, il nulla facente, insomma, il nulla vuole facente, divertirsi e basta. Vuole solo divertirsi, perché ha il papà che sborsa, tanto paga, esattamente. Poi lui ha un papà particolare, nel senso che è un pezzo grosso, quindi è ancora meglio. Dimmi, Derek. Diciamo che il mio padre nella storia è proprio colui che mi spinge in tutto il mio percorso di studi, ed è la figura probabilmente che mi fa più paura al mondo, almeno finché non incontrerò Silvia. Ecco, quello è importante. Un'altra cosa importante, però, secondo me, nella trama, c'è anche la voglia di rompere certi schemi preordinati. Assolutamente. Di rompere, sì. Tagliare per portare avanti un discorso di novità, tra virgolette. Anche perché in questo spettacolo ci sono tante, tante, tante storie e tanti messaggi, proprio perché ci piace pensare che ognuno possa trovare il proprio, o in un personaggio, in una situazione, e ogni storia verrà scombinata. Mm-hmm. I personaggi arrivano in un determinato modo e noi stravolgeremo tutto. Certo, certo. Ed è questo un po' il bello che rende interessante la nostra storia. Alla fine è il significato della vita stessa, cioè è quelli vero. Che dicono io non cambierò mai, non hanno capito niente. Il significato della vita stessa, cioè il percorrere, partire dall'America e arrivare in Italia, è significato, cioè è un'altra esperienza, un modo per aprirsi, per trovare qualche altro stimolo. Esatto. Esattamente. Adesso ci ascoltiamo qualcosa dal vivo, abbiamo parlato tanto. Beh, abbiamo il coro, quindi dobbiamo sfruttarlo. Cosa ci fate sentire? Che pezzo fate Anna, sentire? Cosa ci fai sentire? Anna, cosa fa sentiamo? In verità adesso la canzone senza coro. Ah, perfetto. Recatevi ecco. Questa. La canzone che faremo sentire adesso è Canzone per un'amica. Ah, Morte di SF. Mitica canzone di Francesco Guccini. Hai visto Maurizio, si è illuminato. Mi devo alzare in piedi quando si parla di Morte di SF. Questa canzone viene cantata appunto da Silvia, che è la nostra Chiara, e da Giulia, che appunto la sosterrà come nel controcanto, ma in verità non c'è niente da dire, solo da ascoltare, direi. Certo, certamente. Prego. Lunga e diritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata. Vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva. Forte la mano teneva al volante, forte il motore cantava. Non lo sapevi che c'era la morte quel giorno che ti aspettava, quel giorno che ti aspettava. Non lo sapevi che c'era la morte quando si è giovani e strano poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano, venga e ci prenda per mano. Cari ragazzi, mi sono emozionato. C'è un motivo, io amo fortissimamente questo pezzo. È tratto da Folk Beat numero 1, che è il primo album di Francesco. E c'è un motivo, secondo me, perché è stato fatto questo pezzo. Che Francesco respirava, Francesco Guccini, della Beat Generation. Questa è una canzone che proprio parte, che si ispira, che pende dalla Beat Generation, quindi dai poeti americani. Lui amava moltissimo. Questo è un pezzo bellissimo che ha cantato Augusto dei Nomadi all'inizio di carriera, proprio i primi dischi. Ecco, questa è la versione originale. La sua Eure famosa. Ma questa canzone perché? C'entra perché? Qualcosa? Perché Morte di SF? Perché è una canzone triste questa. È molto noi abbiamo deciso non di fare la versione originale, ma di scegliere questo arrangiamento molto intimo come... Sì, sì, ma io parlavo di testo. Il testo è soprattutto il motivo per cui l'abbiamo scelto, perché è una canzone che canta Silvia nel momento in cui fa scoprire il suo dramma, che c'è questa persona che le è cara ed è morta, insomma. Guidando l'auto, noi non lo diremo... esplicitamente, insomma. Questa canzone farà capire molte cose, certo, del personaggio, certo, di come si evolverà poi la storia. Noi siamo molto affezionati a questa canzone, anche noi quando la cantiamo e quando la vediamo dietro le quinte ci emozioniamo molto. C'è una storia personale nostra dietro questa canzone e riguarda appunto, sono... tre giovani del nostro paese, nostri amici, che ci hanno appunto purtroppo lasciato. Quindi il musical è nato anche per questo. Per loro. Certo. Questa è una bella cosa, comunque. È giusto sottolinearla. Beh, è una bella cosa che anche gente giovane come loro possono ritornare a pezzo come di Francesco in Morte di SF. È positivo, secondo me, è positivo ricordare un pezzo simile. Non so i giovani di adesso se possono capire o se possono ascoltare ancora Morte di DSF. Questa è un'occasione riveduta e corretta. E la trama e l'importanza, l'idea, cioè il fatto successo. Ma già riprendere un pezzo così bello e così profondo, perché è un testo molto profondo. Esatto. Anche lui parlava di un incidente, ricordava un'amica morta in un incidente stradale. Esatto. Dà un certo peso alla cosa, secondo me. Noi abbiamo voluto renderla ancora più profonda, rendendola acustica. Per questo ringraziamo Giacomo Sarasin, che ci ha fatto l'arrangiamento. Esatto, che è un giovane di Mestrino chitarrista. E certo, è una canzone particolare, profonda. Però noi non la viviamo come una canzone triste, o meglio, la canzone è triste, però dentro di noi vogliamo, e nello spettacolo si vedrà, vogliamo darci la nota positiva. Certamente, noi in quel periodo, a proposito di parrocchie, si sentiva, si ascoltava e si cantava Dio è morto, che era dello stesso periodo di Francesco Guccini, un'altra canzone forte, esatto, potente, censurata dalla RAI e trasmessa alle grandi mani dal Vaticano, quindi è una cosa molto importante. Facciamo un giochetto. Okay. Facciamo giochetto. Allora, io intanto, finché loro si preparano, insomma, per fare questa domandina, per avere la possibilità da parte vostra, ascoltatori, di vincere due biglietti per il musical di sabato 26 ottobre 2013, cioè sabato prossimo, al Polivalente di Albignasio, nella rassegna Sognando Broadway, con appunto il musical Al di là del vetro. Vi ricordo il nostro numero telefonico per i vostri sms, attenzione, carta e penna, 346 23 20 033. Lo ripeto, 346 23 20 033. Il primo che risponde correttamente a questa domanda avrà diritto a questi biglietti. Una cosa vi devo chiedere cortesemente, lo faccio anche questa volta: quando mandate il vostro messaggio mettete anche il vostro nome, non solamente chi la risposta esatta, insomma, quindi mettetevi anche il nome in modo che abbiamo la possibilità di rintracciarvi. Poi sarete contattati il giorno dopo, se non sbaglio, Cesare, vero? Confermami tu, dalla redazione di Sognando Broadway, e vi metterete d'accordo per la consegna dei biglietti. Allora, la domanda è, Chiara? La domanda è: come si chiama il bar di Ilaria? Come si chiama il bar di Ilaria? Come si chiama il bar di Ilaria? Per chi non ha visto lo spettacolo, tutte le informazioni e tutte le domande che verranno fatte questa sera troveranno risposta nella nostra pagina Facebook. E se uno non ha internet, speriamo abbia visto. Ci viene a vedere, così vedrà come si chiama. Ma devi farlo prima, sai, la domanda. Daremo comunque un indizio più avanti. Eh no, ma guarda che non hai mica tantissimo tempo. Ecco. Ma lo ripetiamo, come si chiama il bar di... Ilaria. Ilaria. È un nome maschile ed è il nome di una famosissima canzone di Ligabue. E vabbè. Insomma, ecco. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Ah, vabbè, ok. Sì, abbiamo detto tutto. A proposito, chi ama Ligabue, eccolo, dove sei? Ecco. Sei sparita. Sei stata te che hai ispirato la domanda, secondo me. In onore di Pandi. Assolutamente. Allora, ripetiamo ancora, Chiara? La domanda è: come si chiama il bar di Ilaria? Quindi, lo ricordiamo ancora, il 346 23 20 033 per i vostri sms. Io ho già aperto, quindi se qualcuno vuole mandare messaggi, via telefonate, come si suol dire. Mi raccomando, mettete anche sempre comunque il nome di chi indovina. Allora, parlo sempre con te, Emanuela, oppure con Chiara. Con Chiara, sì. La scelta di queste canzoni, perché appunto spaziate da ovunque, insomma. Spaziamo proprio ovunque. La scelta è una scelta un po' mirata, se dobbiamo essere sinceri. Ti interrompo subito. Ecco. Uno mi ha mandato la risposta esatta, penso. Bravo. Però non si è firmato. No, firmati, ti vogliamo conoscere. È un 956 finale, non dico altro, va bene. Se ci puoi mandare il tuo nome, quindi... Ehi, tu, mandaci il tuo nome. Ecco. Chi è che mi stava rispondendo? Manuela. Sì, spaziamo molto. È una scelta un po' mirata, se dobbiamo essere sinceri. Nel senso che abbiamo voluto coinvolgere più pubblico possibile, di più età diverse. Quindi abbiamo, per i non più giovani, abbiamo un Battisti, abbiamo Baglioni, abbiamo Vecchioni. E per i giovincelli abbiamo i One Direction. Purtroppo sì, abbiamo anche i One Direction. sto scherzando, cari, sto scherzando, però sai, noi abbiamo una certa dimensione e giustamente ci tocca. Una cosa, visto che pezzo di Vecchioni avete scelto? A me interessa sapere la scaletta, che purtroppo ho solo 5 pezzi, non voglio sapere, anche se abbiamo tempo, tutti gli altri pezzi, così mi do un'idea. Di Vecchioni portiamo Sogna ragazzo sogna. Bene, portiamo interessante. Sì, soprattutto per il testo, perché certo, è un testo che è... E di Baglioni cosa portate? Di Baglioni Crescendo e cercando. Ah, benissimo, ottime cose. Ecco. E poi altri cantautori che voi ricordate? C'avete anche Ligabue? No, Ligabue no. No, niente. C'ho solo la domanda. Ligabue nello scorso spettacolo. Abbiamo smesso. No, abbiamo il grande Battisti. Beh, con Emozioni. Con Emozioni che poi sentiremo. Che poi sentiremo, ecco, esatto. L'importanza di scegliere un pezzo battistiano come Emozioni, un pezzo da gruppo, un pezzo che si suonava con la chitarra e tutti rispondevano, esatto, al ritornello. Perché? Al di là del testo, della trama, ma la scelta è stata una scelta mirata? Cioè, quante pezzi avevate in mente e poi li avete tagliati, avete filtrati? No, ogni scelta di canzone è assolutamente mirata al momento preciso nello spettacolo, a quello che sta succedendo e per l'atmosfera che crea la canzone e per il testo, perché noi crediamo che un testo in un musical sia come un pezzo di copione. Certo, assolutamente è assolutamente vero. Così, e una canzone come Emozioni, che magari in tanti hanno cantato tutti con la chitarrina, certo, insomma anche in quel momento nello spettacolo, essendo che è una canzone corale, ognuno può un po' metterci del suo in quel momento, ecco. Chiaramente sì, e infatti canteranno tutti assieme quella canzone, proprio perché è una canzone canzone corale, però è difficile da eseguire, sì, Emozioni non è molto. Battisti non era semplice, sembra semplice ma non è così, no. Era molto inventivo musicalmente parlando, era difficile da elaborare, sembra facile, non è proprio così, dovete ascoltare bene i pezzi di Battisti, che sono molto complessi, sono molto avanti per l'epoca, sì, nonostante tutto. Ma infatti ce ne siamo accorti subito quando l'abbiamo messa in scena, che non era affatto facile. Appunto, però speriamo di essere riusciti a renderla un po' nostra, un po'. Sì, ci siete riusciti, senz'altro. Senti, io già vi do che hanno indovinato, già vi dico insomma che hanno indovinato, appunto perché poi ha rimandato il messaggio. Si è firmato. Si chiama Diego. Grazie, Diego. E abbiamo dato il premio a lui perché è stato veramente il primo a mandare il messaggio. Nel frattempo poi è arrivato un altro da parte di Edda, Edda vienici a vedere lo stesso. Vienici a vedere lo stesso. E poi anche un altro Mario che ha detto Mario, quindi... questo avrebbe il bonus. Quindi ringraziamo anche gli ascoltatori che hanno mandato lo stesso i messaggi, però insomma se lo porta a casa questo premio, questi due biglietti, appunto, Diego. che è stato il primo che ha mandato il messaggio, insomma. Quindi. Diego, sarai contattato dalla redazione di Sognando Broadway, penso da Cesare, non so da chi per essere. Sicuramente da Cesare. Si è già preso il tuo numero di cellulare. Sì. Quindi. Il discorso di Barda Mario, cioè abbiamo citato Ligabue, è solo una citazione o qualcosa d'altro? Beh, se uno pensa alla canzone Certe Notti, secondo me si inserisce bene all'interno dello spettacolo, l'atmosfera che si respira. Esattamente, Certe Notti, giustamente. E anche si respira anche quel film che aveva fatto Ligabue. Esatto, che è... Radio Freccia era molto legato a queste atmosfere giovanile. Alla radio. Siamo alla radio, chiaramente, è molto importante. Però il discorso della radio, si ritorna ai college americani. Esatto. Sono fondamentali le radio nei college americani. È fondamentale, e questo è un discorso che si collega, si amplia, è tutto il discorso di gioventù, di trovare delle atmosfere diverse, delle sensazioni diverse, al di là di venire in Italia per bighellonare, come abbiamo detto prima. Esattamente. Infatti anche il nostro Derek verrà in Italia per bighellonare, ma poi presto smetterà di bighellonare. Esattamente. Si trova delle persone, dei coinquilini un po' particolari che lo costringono per un modo o per un altro. Con un modo o nell'altro, comunque cambierà anche il nostro Derek. Poi un'altra cosa che ho ricordato, non ho scritto qua, a me ricordava molto la vostra situazione, sempre a larghe vedute, Il Grande Freddo. Ve lo ricordate quel film? Il Grande Freddo, dove erano tutti. No, Maurizio, sono giovane. Sono giovane, però è interessante. No, ma tu lo ricordi? Sì, qualcosa sì, ma devo averlo visto che era molto piccolo. Sì, ma in ogni caso era una serie. C'era un sacco di personaggi, tutti vicini a un tavolo, che parlavano fra di loro e parlavano delle loro vicende umane. E questo appartamento può essere anche paragonato a un grande tavolo dove si parla, si discute, si crea. Esatto, loro non hanno un tavolo, in questo caso hanno un divano, più che esattamente un tavolo, dove noi li faremo sedere tutti vicini, e in questo luogo, che poi è il salotto di casa, è l'entrata, si svolgono tutte le vicende, e nel salotto e poi nel bar, perché sono quelli i due luoghi di... E nel bar da Mario. Il bar da Mario. Chiaramente. L'abbiamo detto. Ligabue Docet. No. Pandi, diga Bue Docet, sempre. Sempre. È uscito un nuovo album, se vi interessa, fra poco. Il Mondo Visione. Il Mondo Visione, diga Bue. Lei sa tutto, lei sa tutto, fra qualche giorno esce il nuovo album, sei già pronto. 26 novembre. Vedi, sa tutto, 26 novembre. Vabbè. No, abbiamo fatto lo spot per Ligabue, non occorreva, però insomma abbiamo fatto lo stesso. Basta, dice il nostro tecnico, dice basta Ligabue, basta. Qui c'è un messaggio che dice: grazie, comunque andrò comunque a vedere lo spettacolo, anzi salutatemi in diretta a tutte le sbarbine lì presenti, ci tengo, thank you, si firma. Che carina, ciao. E poi un altro ancora dice: per me il bar è Bar Mario, come quelli di Ligabue, maci da Tencarola. Bravissimo, proprio colto alla perfezione. Hai visto? Maurizio. Sì. Musica è musica, c'è la poco musica da fare. È musica e ci unisce tutti. Allora, parti tecniche adesso. Quanto ci avete messo a fare questo musical? Tanto. Scrittura Tanto. Del copione. Scrittura del copione ci abbiamo messo, Chiara... Sei mesi ci abbiamo messo buoni. Quasi. Voi due tutti e due insieme? Sì, io, lei e Tanto Caffè. Tanto Caffè? Sì, sempre. Era il compagno di vita. Sì, sei mesi, ma perché è stato elaborato nel tempo, ecco. Sì, nel senso che noi, io e lei lavoriamo molto bene assieme a scrivere copioni, perché da una viene l'idea, l'altra lima, ci mettiamo bene assieme, e soprattutto la cosa bella del nostro gruppo è che i copioni partono tutti da un'idea comune, nel senso che noi la primissima domanda che facciamo a tutti è: forniteci delle canzoni, la canzone che lei stai ascoltando in macchina ti dice qualcosa, che ti piace, che... e poi noi vediamo come incastrarle, se incastrarle, tipo Emma Marrone non la incastriamo. Quella no. Pandi, cosa dici? delusione che non è stata incastrata Emma Marrone. E abbiamo già incastrato gli One Direction. Quella è una cosa molto grave, secondo me. Molto grave. Accontentare tutti. Sì. È una polemica così per ridere, ma chiaramente, certo, assolutamente, certo. Siamo in radio, ognuno ha il proprio parere. Io ed Agostino abbiamo un parere un po' diverso dei guandi dei riesci, leggermente diverso. Leggermente. Beh, insomma, ad ognuno la sua ma cosa, c'è, ad ognuno le sue cose e la sua età, chiaramente. Noi abbiamo messo pezzi un po' per tutti i gusti. Sì, certamente. Cerchiamo sempre di mantenere questo standard qualitativo. Qui da dietro mi dicono: dovete sentirla fatta da noi, però. Ah, meglio di... Ovviamente. Sicuramente fatta meglio di loro, questo è chiaro. Assolutamente. Maurizio, ce l'hai 10 euro? devi dargli l'idea a Cesare, perché devi dare un biglietto, c'è uno che chiede mi date un biglietto, un po' di domanda. Pandi, sei forte. Pandi, hai fatto colpo. È sempre Maci, dice così. So. Poi ti fai dare i soldi da Elio, gli diamo un biglietto a Maci. Va bene, ecco, Maurizio paga. Va bene. Ascoltiamo ancora qualcosa adesso. Ce la stiamo, già vi voglio annunciare una cosa, ce la stiamo prendendo comoda, perché per gli amanti dell'heavy metal, dell'hard rock, questa sera il nostro collega Renato Ferro non ci sarà. Perciò andremo avanti un po' di più con loro, insomma, se avranno voglia di stare qua con noi, se avranno voglia di raccontarci qualcosa in più, e faremo qualcosina in più, Maurizio. Va bene? Ti dice va bene? Sì, sì, va bene. Cioè, Renato ha preso un giorno di ferie e quindi noi... E noi siamo qui, staccano visti come sempre. Anna? Purtroppo io non posso dirvi il titolo di questa canzone perché non sono in grado di pronunciarla. Verrà coadiuvata da me. Che si intitola... What makes you beautiful? Eccoli, sono loro, sono arrivati. Li avete chiamati, sono anche per me. Anche detta what makes you beautiful. Io lo dico, that's what makes so beautiful. E volevo dire che diciamo è una One Direction in stile mozartiano, perché è armonizzata a tre voci, e quindi è questo un po' la differenza data da noi. E ben venga, assolutamente. Quindi è un po' un One Vivaldi, mi viene da dire. Però mi direte voi se vi piace. Prego. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground in an hard to tell, you don't know. Know you're beautiful if only you saw what I can see. You understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. So come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy and turn away when I look into your eye. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground in an hard to tell, you don't know. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it is hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it is hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know. You don't know you're beautiful. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Whoa. Maurizio. Eh sì, dico una solo una cosa, è meglio sta versione qua. Quella era poco, ma sicuro. Era poco, ma è molto meglio questa versione qua. Ringraziamo Anna Mozartiana. Sì, è stata molto brava la Mozartiana, la nostra curatrice del coro. Ho visto anche il tecnico che ballava, è una cosa fantastica. Facciamo fare delle magie durante questa canzone. Beh, la versione è stata molto divertente. Finalmente abbiamo scoperto chi erano i One Direction, o sono i One Direction. Musicalmente era molto divertente, molto a cappella, giustamente come doveva essere, o quasi a cappella, che c'era una piccola versione, un piccolo sottofondo musicale di da un po' di percussivo. Sì, loro hanno grande successo in tutto il mondo, venivano da X Factor, esatto. E voi avete scelto apposta perché giustamente, come giustamente diceva Emanuela, ci sono momenti di musica più, più vecchia, e più profonda, più interessante, secondo me, e musica un po' meno interessante ma più vivace, più giovanile chiaramente. E questi sono la boy band per eccellenza. Esatto, proprio un momento da musical in cui ci si sfoga. Esatto, ci si sfoga. Energico. Esattamente. Allora c'è un complimento per te, Chiara. Dice ciao, che brava Chiara a cantare. E bravi tutti. Grazie. Non si è firmato, quindi non posso dirti. Non si vede in radio, ma divento tipo viola. Vabbè, ma sei dei colori che ama Maurizio. Sì, molto bene. Un ottimo colore. Un ottimo colore. Bianco-nero è sempre un ottimo colore. Mi dicono di sì. Il musical è aperto anche alle mamme? È aperto a tutti, perché qui dice può venire anche mia mamma, è fan dei One Direction. E allora porta, casomai lei paga. Scherziamo, musical è assolutamente per tutte le età. Ecco, quindi insomma. Beh, c'è musical... anche mio fratello che ha 7 anni, quindi. Ma il musical dovrebbe essere così, vero? È il musical, sì, è un po' la funzione del musical, che riesce a raccogliere tutte le età, proprio perché spazia in tanti temi, in tante canzoni, e ognuno può trovarci quello che vuole. Cesare, non è così il discorso del musical, è assolutamente quello, no? Sì, allora diciamo che il musical nasce proprio dalla voglia di portare più gente possibile a teatro. La prosa in realtà è molto più limitante, certo, cioè, certo. Per far arrivare le persone per la prima volta al teatro, mentre il musical, proprio per questo aspetto di avere oltre che il recitato anche la parte cantata e anche la parte ballata, apre molto di più a tutte le persone, ed è anche per quello che diciamo vogliamo l'idea di Sognando Broadway nasce proprio da questo, nasce dal fatto di poter dire alle persone venite intanto a vedere i musical, che forse sono un po' più facili, poi andate a vedere anche qualcos'altro. Giusto, una cosa giustissima. E già che sei qui, Cesare, se vuoi dire i prezzi, i dettagli sono... Sì, allora gli spettacoli sono ad Albignasego, al Palazzetto Polivalente, ogni 15 giorni, perciò il prossimo è questo sabato 26, il prossimo è il 9 di novembre. E i prezzi sono 10 euro l'intero, 5 euro ridotti per i bambini sotto i 12 anni, perciò sono prezzi ultra popolari. E poi il regolamento, che è importante, che lo ricordiamo ogni sì, volta. Esatto, perché alla fine il pretesto è anche il fatto che è un concorso e tutti questi ragazzi partecipano, hanno la possibilità di vincere sia il premio come miglior musical, ma anche ci sono vari premi dati dalla giuria tecnica, miglior attore, miglior attrice, coreografie, scenografie e regia. E praticamente una parte del giudizio va alla giuria tecnica, di cui Agostino Spolavore fa parte. Quindi non puoi dire niente, Agostino, assolutamente. No. E mentre un'altra parte del giudizio va a tutto il pubblico, alla sera dello spettacolo verranno date delle schedine con cui possono votare. Mettere praticamente un voto da 1 a 5 a seconda del gradimento del musical. Ricordiamo chi sono anche gli altri giurati. E gli altri giurati, spero di ricordarmi tutti i nomi: c'è Erika De Lorenzi, c'è Anna Sadocco, Lucia Perin e Nando Bertaggia. Ed Erika. Erika, sì, Erika De Lorenzi. Siccome lui ha una predilezione verso sì, Erika, sì, per quello. Devo dirlo due volte. Prova a chiedere a Maurizio cosa ne pensa della voce di Erika. Strepitosa, bellissima. Un'altra cosa, dimmi. Finisco il discorso della giuria. Ricordiamo che Blu Radio Veneto è anche media partner. Esatto, esattamente. Volevo chiedere ai ragazzi e alle ragazze qui presenti: quante prove avete fatto per arrivare adesso, in questo momento, 22.02, e per arrivare poi a sabato? Che emozione c'è? Che tensione c'è? La tensione, bella parola. La tensione c'è, è palpabile ed è tantissima, nel senso che cominciamo veramente agli sgoccioli, si sente. E, prove. Tante. Di più. Anzi, per questa manifestazione, per questo concorso, li abbiamo messi ancora più sotto. Nel senso che li abbiamo affiancati ad un vocal coach. Sempre la regista. Esattamente. Il nostro vocal coach ha preso i nostri attori per lavorare ancora di più sull'interpretazione della canzone e perfezionare quelle cose che magari non erano. Visto che abbiamo tempo, che cos'è il vocal coach? Adesso viene il microfono e lo spieghi. E lo spieghi chiaramente, così abbiamo tempo. Anche Cesare è un vocal coach, ma voglio sapere. No, non è un vocal coach. Mi devi spiegare cos'è il vocal coach. Perché la gente che sente dalla radio. Sono curioso anch'io della radio, deve saperlo. È la prima volta che spieghiamo cos'è il vocal coach stasera, 22:04, in diretta. Sono curioso. Beh, chiaramente, come dicevano gli antichi, è questa figura che mi nasce quasi nel lontano, insomma, se uno che capisce qualcosa. Siamo Filippo Piazza. Parla Filippo Piazza. No, in realtà cosa succede? Che magari mi hanno chiesto se era possibile prendere questi giovani ragazzi che poi andavano a cantare solisti sul palco e fare un lavoro un po' sull'impostazione. Ma no, guarda, realtà, siccome è stato un lavoro molto intensivo, perché l'abbiamo iniziato a settembre, a settembre diciamo. Cosa abbiamo pensato io ed Anna? Abbiamo pensato di fare un lavoro soprattutto sull'interpretazione, perché io ritengo, insomma, che le canzoni, la maggior parte delle canzoni abbiano un significato particolare, per cui tante volte nel canto a volte non è tanto il bel canto, no, che va ad interessarci, ma quanto riesci a trasmettere, no? Per cui in un mese non è che si potesse andare a giocare tanto sull'intonazione, sulla respirazione, su tutti quei dettagli tecnici, no? Era importante, secondo noi, dare un po' di fiducia a questi ragazzi che magari erano lì per fare gli attori e si trovavano a dover cantare delle canzoni. Ho capito. E per cui gli strumenti tecnici erano, se vogliamo, un po', come si dice, quando ti basta pensare alla medicina, erano un placebo, se vogliamo, però... un po' un placebo per... Questo glielo diciamo agli attori. Ma glielo diciamo oramai, è fatto. Però dall'altro punto di vista abbiamo puntato tanto sul lavoro sul testo. Ho capito. Perché a volte anche una parola ti crea un'immagine, no? E quell'immagine poi riesci a... ti cambia anche la voce, anche come canti. Ma tu hai perfettamente interagito con Anna, chiaramente. Abbiamo sempre lavorato assieme, sì. Lavorato assieme su ogni singolo ragazzo che poi andava a cantare. Purtroppo, e qua vi chiedo scusa davanti a tutta l'Italia che ci sta seguendo, i tempi erano stretti, per cui all'inizio cantavano un po' tutti. Poi è deciso per prepararci di un po' al concorso e comunque per portarlo in scena così, abbiamo deciso di limare, puntare un po' su determinate voci. Però è solo perché i tempi erano stretti, ovviamente. Sì. Per cui ecco. C'è una forma di censura vocale qua. No, assolutamente. No, assolutamente. Solo abbiamo a volte quattro orecchie sono meglio di due, no? Sono d'accordo, per cui assieme abbiamo rivisto certe cose e già questo ha cambiato un po' il volto dello spettacolo. Quindi abbiamo capito cosa è il vocal coach. Questa è una cosa importante, è la prima volta in assoluto che capiamo noi. Sì, ignoranti, è, nel senso che è imbarazzante essere chiamato. Infatti noi di solito lo chiamiamo Filippo. Sì, meglio, è molto più proprio. Facciamo una presentazione seria, diciamo cos'è il vocal coach. Il professionista per informazioni, info@. Perfetto. Cesare, sei soddisfatto della spiegazione? Sì, praticamente è tanto per svelare un aneddoto. Uno dei ragazzi mi aveva mandato una mail, adesso non mi ricordo bene qual era l'oggetto della mail, e mi parlava di questo vocal coach. Io, da ignorante come te, ho detto cos'è il vocal coach? Poi me l'hanno spiegato anche a me, perciò ho fatto anche la figura del vecchiotto, quale sono, hai capito, a non saperlo. Beh, parli con uno che è altrettanto vecchio, vero Maurizio? In che senso? No, nel senso così, così. Beh, bene. Chiara, stai facendo proseliti tu, eh? Io? Sì. Allora, uno ti chiede di portare il musical a Firenze. Sarebbe come portarlo a casa. Maga, esatto. Sarebbe veramente come portarlo qua, a casa. Basta mettersi d'accordo sulle cifre. L'amministratore decide. Io ci metto il cuore, poi le cifre le affido al. Ma perché capi. Sei originaria di Firenze? Magari. Ah, no, sono mestrinese doc. Però ci piaceva l'idea di portarlo in un posto diverso, a parte che io e Manu siamo innamorate di Firenze. Crediamo che sia una città un po' magica dove può accadere di tutto e soprattutto ci piaceva un luogo che non fosse qui, ma che potesse anche essere qui. Perché questa storia potrebbe accadere in qualsiasi città dove ci sono dei ragazzi universitari. Solo che, insomma, ci piaceva Firenze e faceva... Ecco, ma è respirante. Tu hai Firenze. Detto magia. Al di là del vetro, il vetro... Ecco, dobbiamo focalizzare sul discorso del vetro, è molto importante. Sì. Il vetro, al di là del vetro, dà... Che di misterioso. Il vetro è misterioso. Cioè, può cancellare e può far vedere... Cos'è il vetro? Perché il vetro? Voi avete dato delle spiegazioni ottimali, adesso le spiegate, abbiamo tempo, sono le 22.09. Sì, allora, a noi l'idea del vetro è venuta guardando fuori dalla finestra, letteralmente, con il solito caffè in mano. Quello fa male, tanti caffè fanno male però. No, hanno creato un bel copione. Hanno creato un bel copione. Il caffè ha creato un bel copione, ok, dimmi. No, nel senso che ci siamo fermati un attimo io e Chiara a riflettere sulla parola vetro. Come avete scritto voi, alla fin fine il vetro è una cosa... È dovuta a una reazione chimica. È la storia della vita, il vetro. Esattamente. E è un po' il sinonimo della vita che corre, che passa, che si trasforma e che si cambia. Perché il vetro, se ci pensate, è quello che vediamo appeso alla finestra, che nasconde, che protegge i diplomi della scuola, le nostre fotografie del passato... Il vetro è il vetro della vetrina quando siamo innamorati e andiamo a scegliere le fedi che ci legheranno alla persona con cui vorremmo passare il resto della vita. Oppure anche la pasticceria con le cose che vorremmo vedere e non possiamo. E non possiamo mangiare. Oppure, ancora di più, il vetro è quello, il vetro del nido, attraverso cui mostriamo i nostri piccoli quando nascono, ai genitori commossi, insomma. D'altra parte, queste sono cose belle, il vetro però è anche quella sottile linea di demarcazione tra... ciò che c'è ma non vogliamo vedere, come il pregiudizio, come chi non c'è più anche. Certamente. Come tutto ciò che ci separa dalle persone che sono attorno. Oppure il vetro anche che ci mettiamo quando per separarci dagli altri, quando subiamo un dolore o una qualche difficoltà. Ma anche un vetro mentale che non vogliamo parlare con l'altro. È un vetro mentale nel quale non vogliamo far entrare altro. Esattamente. Sempre tu, Chiara. Tanto. Che non è colpa mia se dice. Grazie. Allora, okay. Sei sposata? È fidanzata? Ecco. Liberissima, grazie. Liberissima. Allora liberissima, ti ho trovato, anzi, ti ha trovato lui perché scrive. Che bravi. Ma Chiara è anche carina oltre che brava? No. È carinissima. Grazie, dopo forniremo. Alla fine dello spettacolo forniremo. scendere. Vittoria si può proporre anche come wedding planner, Ecco. Ecco la fish. Escono i personaggi. Si chiama Mattia comunque il pretendente alla tua mano. Grazie. Mattia è un bel nome, Chiara. È un bel nome, assomiglia un po' a Matteo che è... Ma no, Mattia. Va bene. Bello, ci piace molto. Cosa ci fate ascoltare adesso? E adesso è la volta di Emozioni. È una canzone che ci ha visto impegnati molto. Perché proprio essendo... Io appunto non sono una regista, insomma, mi dedico soprattutto al coro e un po' ai solisti, poco perché il grosso fa Filippo. Però ci sembrava un po' un momento di incontro, un momento forte del musical. Oltre alla canzone che a me personalmente piace moltissimo e quindi ho voluto un po' caratterizzarla col coro in una maniera un po' particolare. Anche il lavoro con i solisti è stato molto importante in questo, quindi magari forse ve ne parlerà Filippo poi. E se mi viene da pensare una canzone che incarna proprio quello che stava dicendo lui prima, il lavoro sul testo e come un'immagine può modulare la voce, mi viene in mente questa canzone. Ed è il motivo per cui l'abbiamo portata qui, può essere un bel manifesto secondo me per far vedere un po' il lavoro del canto in merito. Esattamente, tu hai detto una cosa giusta, che abbiamo ribadendo il discorso, che Emozione è un pezzo difficile, molto difficile da farsi, complesso, ci è messo un sacco di tempo per limare, per cercare di coinvolgere, di fare perfettamente un pezzo così, con un testo così impegnato, così profondo. Anche perché tante volte parte un'idea, l'esecuzione arriva, ma in verità si scende in profondità di quell'esecuzione che avevamo imparato prima solo dopo molto tempo, forse anche dopo aver fatto qualche spettacolo, e questo secondo me è un po' il nostro caso. E è maturata con noi come un po' tutte le canzoni, penso tutto lo spettacolo, e basta, l'ascoltiamo. Dalla brughiera di mattina dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso. Parlare del più o del meno con un pescatore per ore ed ore, e non sentir che dentro qualcosa muore. Coprir di terra una piantina verde, sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Chiamale se vuoi, emozioni. È proprio il caso di dire emozioni, qui non si discute, quando c'è questa canzone e si ascolta, come si suol dire, in religioso silenzio, perché è proprio uno dei capolavori di Lucio Battisti. Sì, erano emozionate tutti, compresa la cantante solista, la Chiara, chiaramente. È un pezzo molto bello, e molto bello anche, diventa molto bello, molto sofferto, molto anche nel coro, nelle voci. L'insieme, il passo delle voci dà un certo senso, quasi un coro quasi gregoriano in alcuni momenti. È molto, molto intenso, molto sentito al di là del testo. E poi quando Battisti nel pezzo originale suo, no, nella versione di Mina o di qualche altro, lui grida, c'è il famoso grido, poi il grido lo trasformate in un coro di voci assieme. Esatto. Anche quello è un modo per ricordare Battisti e per ricordare il messaggio che ha sempre portato avanti. E questo è un messaggio importante in un testo fondamentale, in una trama che riflette molto questo testo. Cosa dici, Emanuele? Sì, esattamente. Noi abbiamo deciso comunque di questa canzone di renderla il motto che ci diceva sempre Anna. Ha passato 6 mesi a dirci: emozioni non è una canzone triste. Perché noi inizialmente l'avevamo un po' presa come... forse l'avevamo un po' interpretata male. Nel senso, davamo al significato dell'emozione, forse un po' troppo presi dalla trama, come qualcosa di triste. In realtà il testo non parla di emozioni tristi, parla semplicemente di emozioni. Esattamente. Emozioni belle, magari anche emozioni triste, ma non è il nostro caso. Si può associare una canzone romantica, tra virgolette. Però... noi abbiamo deciso di porre un po' l'accento sull'emozione positiva. Ma è importante sottolineare l'impasto vocale, mi interessa questo, perché adesso, stasera, in questo momento parliamo di musica, il pezzo era difficile, Chiara, cioè la vocal, Anna praticamente ha dato un bel colore, vi ha guidato, anche Filippo è qua dietro, vi ha guidato, vi ha impostato, io ho visto questo momento in cui vi guidava proprio. Esatto, con le espressioni. Non era il maestro, non aveva la bacchetta, ma aveva le mani, che è la stessa cosa. L'espressione era fondamentale, secondo me, e quello... cantare un pezzo simile, che è difficile, come abbiamo già detto un sacco di volte, vuol dire è un tentativo, non si può. Quando si toccano i miti c'è sempre del coraggio, ci vuole coraggio per toccare anche i miti, un po' di timore, è anche un po' di timore toccare un mito come Battisti, è un pezzo simile che lo conoscono tutti. Esatto. Come la canzone del sole, che lo conoscono tutti. Emozione è un altro pezzo che è conosciuto da tutti, chiaramente. Bene, si parla di emozioni, anch'io ve ne voglio regalare una, o meglio ve la regala lei. C'è una vostra fans, o forse qualcosina di più? Pronto? Pronti? Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao, mi riconoscete? Giorgia! Sono che il emozione. Capo ballerina che vi saluta! È una delle, è una nostra attrice ballerina. Coraio, Giorgia, esatto, volevo scrivermela come citazione, Coraio. Allora, io sono risalito a Giorgia, che adesso scopro come si chiama perché non lo sapevo, perché sì. Lei aveva mandato un messaggio, io volutamente non ve l'ho letto perché volevo sentirla al telefono, visto che anche fa parte del cast, insomma, ci sono queste ballerine. Esatto. Aveva scritto: grandi ragazzi, spaccate in radio, un saluto dalle vostre ballerine. Oh, che esatto. Giorgia, tra l'altro, non è solo una ballerina, ma è anche una delle protagoniste dello spettacolo, perché non possiamo troppo svelare, esatto. Ma vi assicuriamo che è... Ma non spifferate nulla, no? È il nostro pezzo forte, Giorgia. Non mi rovinate il ruolo. Allora, queste ballerine cosa fanno? Queste ballerine sono importantissime. Giorgia, ci racconti tu cosa fai? Sì, vai Giorgia. Cosa fanno queste ballerine? Dunque, ballano, danno un po' di contorno. Cioè, tentano di ballare, no, dai scherzo. E danno un po' di contorno al tutto, ci divertiamo un sacco con gli attori soprattutto. E niente, insomma... l'importante è quello, secondo me, divertirsi e insomma, stare in compagnia. Questo è lo spirito con cui ho cominciato a fare questo musical, insomma, grazie ad Emanuela e Chiara, chiaramente. Oh, carina. A volte ho proprio lo spirito che guida è tipo come, che è il divertirsi e riuscire ad esprimersi, a emozionare, ma anche ad emozionarsi. E loro lo fanno attraverso il ballo e sono bravissime, perché veramente... sono esattamente. Sì, sono bravissime. Agostino, ti e anche bravissimi, pardon. Perché abbiamo anche un maschio, ci siamo dimenticati. Sì. Noi che parliamo c'è cioè un ballerino, ma abbiamo il maschio. Bene. Ma insomma, in totale quanti siete? Io ho i numeri zero. Sì, no, 35 saremo. Quanti siamo? 35. 38. 37, mi 37. Dicono 38, 37. Mi dicono 38. 39. 40. penso una quarantina, facciamo una quarantina di persone. Ma sì, siamo una quarantina in generale. Quarantina di persone. Lordi, quarantina di persone. Lordi. Bello, una cosa, non so, non mi ricordo che abbiamo spiegato il significato del nome. No, non ancora. Non ancora. Allora, beh, lo spiego. Agostino, fa la domanda ad Agostino. No, no, puoi farla tu. Sì. Che cosa vuol dire? Allora, il nome è nato. Giorgia, tu sei là, eh? Sì, sono qui. La Giorgia lo sa benissimo. Sei perché facile. È molto da Giorgia. E lui il... Facciamo parlare lui. Facciamo parlare chi ha inventato questo nome. Esatto. Che io all'inizio non volevo assolutamente, ma ha un senso bellissimo in realtà. Giorgia, passo Lorenzo. Tu sei lì, Giorgia, che ci fai compagnia fino alla allora, fine. Allora, beh, il nome... Certo. Io un chi tempo sei? Chi sei? Sono Lorenzo, sono tecnico Luci, diciamo. Lorenzo. Il nome è nato perché... Tempo fa ero nel direttivo, adesso mi hanno buttato fuori, ma questo non è un problema. Io sai quanto ci hai guadagnato. Io sono forte lo stesso del fatto che ho, diciamo, inventato il nome, perché il nostro spettacolo precedente, come era già stato detto prima, si chiamava Ti porto con me, voci di una valigia. E quindi, diciamo, tipo come sono le prime due lettere di Ti porto con me. Esattamente. E quindi il nome è nato così un po', io ho detto un po' a caso, diciamo, ho detto chiamiamoci tipo come, perché mi piaceva come suonava e perché erano le prime due lettere, appunto, e basta, insomma, così. È ingannevole, ma ha un bellissimo significato, sì. Un po' come One Direction cantare. Purtroppo sì. Ma anche, al di là di questo, abbiamo sentito la versione di One Direction, e al di là di questo muove il pubblico giovanile, questo è uno spettacolo giovanile, giustamente. Mi dicevano i ragazzi, che Agostino tu non lo sai, che quando hanno saputo, certa gente ha saputo che c'era un pezzo di One Direction, non so se avevano una quotazione di 10, sono passati a 50. Ah, sì. E la forza di una boy band come questa, la forza... Io ho detto in un'altra saletta, c'erano altre boy band una volta, si chiamavano Beatles, si chiamavano Rolling Stones, si chiamavano Duran Duran, si chiamavano Spanaon Ballet. Purtroppo abbiamo i One Direction adesso. Un messaggio. Si chiamano ancora, si sicuramente. Chiamano ancora. Certo. Un messaggio che ci arriva da Palermo. Addirittura. Così sembra. Con emozioni mi sono emozionata, anch'io. Grazie mille. Un bacione immenso a Chiara e un in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Spaccate tutto. Ma grazie. Grazie mille. Giorgia. Sì, grazie, sì. Giorgia. Sei tu, Giorgia, sei tu? No, no, no, un'altra Giorgia. No, io no. So. Bene, i vestiti invece adesso. Come siete vestiti? Ci sono dei... O svestiti, perché... No, questa è per tirare gente. No, nel senso, siamo uno spettacolo ambientato in estate e adesso è inverno. E infatti abbiamo un po' paura. Abbiamo un po' paura. No, nel senso che non abbiamo detto che questa storia si srotola in 10 mesi. Ok, quindi i costumi, non essendo che siamo una storia di adesso, di tutti i giorni, non abbiamo costumi sfavillanti come attori. Le ballerine hanno come si dice? Hanno dei costumi che rispecchiano il loro ruolo. Hanno una bella mise. Hanno delle mise da ballerina. Tipo, Giorgia, svela una mise da ballerina. Oddio, un bel vestitino blu, elettrico, di pizzo. Corto. Corto. Ecco, io non mi ricordo dove abbiano un vestitino blu elettrico, ma mi fido di Giorgia. Oddio. Ecco, e invece noi protagonisti siamo vestiti, insomma, in maniera molto normale, più o meno, circa. Più o meno. Più o meno. Dipende dai personaggi. Sì, ogni personaggio ha il suo vestito. Per esempio Diana, la nostra Angelica, che è sportiva, è vestita con abiti sportivi. Oppure Vittoria, vogliamo parlare di Vittoria? È la più fashion di tutte. Ecco, Vittoria è firmata da testa ai piedi, è una cosa... Ecco, oppure c'è Matteo, che... Matteo, che cosa ti facciamo fare, Tarluca? Matteo pensa solo a studiare, vestiti non gli Matteo interessa. Matteo non si veste un po' da barbone perché non gli, non gli interessa. No, non è vero, non è vero. Chi è che ha scelto questa tenuta vostra? Insomma, siete state voi oppure una in libera realtà scelta? Abbiamo lasciato per scelta proprio, abbiamo lasciato che ogni personaggio e le ballerine si vestissero come meglio volevano. Sentivano loro. Beh, insomma. Devono come essere scelta, loro esattamente. Li abbiamo approvati perché si sa mai, sì, no, le cose che vengono fuori. Non volevamo però... trovarci mutande reggicalze magari, però ma non è lo spettacolo, ecco. E invece per quanto riguarda il trucco? Il trucco. Il parrucchiere. La nostra Vittoria si è illuminata. Adesso passiamo la parola a una nostra truccatrice, signorina Lisa. Dovete sapere che una delle passioni di Vittoria e Diana è guardare Clio Makeup. E quindi anche in questo spettacolo si è visto, per cui tutto il trucco nelle precedenti edizioni, no, l'ho fatto io con l'aiuto di Giulia, quindi ci siamo un po' arrangiati e grazie comunque a una sorta di sponsor che ci ha aiutato e ci ha fornito tutto il materiale di trucco. E alla Deborah, a Deborah che ci ha pettinati tutti, sì. Deborah e Giulia ci hanno fatto delle concerti. Soprattutto abbiamo un'attrice che ha 26 anni e deve dimostrarne tipo 50 e la trasforma. Quella che è emozionata? Quella lo scrive anche su Facebook. Sì, quella lì, quella che non nominiamo, perché non poi sennò tutti vanno a vedere il commento. Sì, appunto. Dicevi? Dicevo, appunto, che come ci siamo mantenuti abbastanza naturali, a parte quei personaggi che avevano bisogno di una caratterizzazione più marcata. Per il resto, direi, vuoi dire qualcosa, Giulia, per il reparto taglio e parrucco? Mi sta dicendo che è stata bravissima. Un sacco di forcine e lacca. Un grazie veramente alle due parrucchiere, perché la cosa importante delle acconciature era che dovevano tenere per la durata, per 2 ore e mezza, nonostante balletti e di tutto. E hanno tenuto, vero? Irene, hanno tenuto? Perfettamente. Confermo. Ecco. Ha tenuto molto molto bene. Ecco. Anche il trucco. Anche il trucco ha tenuto, quindi... Sono curioso di vederti cinquantenne a te. E venite tutti sabato per vedere una 26enne trasformata in cinquantenne, eppure... Insomma, come senza si dice? Parrucca. Senza parrucca. I capelli sono tutti i suoi, dicono. Sono tutti i suoi, sì. Dice. Confermiamo. Giorgia, tu sei truccata? Certo, certo, siamo anche pettinate, anche per noi ha resistito il trucco e parrucco, quindi... Ma anche voi avete una pettinatura un po' particolare o anche voi siete... No, è molto libera, diciamo, libera. Ognuno si esprime al come meglio crede. Diciamo che i ballerini hanno più occasioni di poter usare col trucco, perché esatto. Appunto serve un'espressività nel volto, quindi magari vengono marcati gli occhi, noi abbiamo gli occhi e la bocca marcata, ma in maniera più naturale. Loro invece, essendo che dopo interpretano il ballo, sono molto più truccate di noi, ecco. Su loro viene fatto un lavoro un pochino più impegnativo, macchinoso. Certo. E chi il ballo, chi ha scelto le movenze, i passi di danza? C'è la capoballo, la capoballo, che però non la nostra coreografa Claudia Polato, che oggi non c'è. La no, che oggi non c'è. C'è un'altra bellissima ragazza, ma non... No, anche no, è veramente brava, perché non ha fatto ballare solo i ballerini, che non sono comunque è ballerini professionisti. Dire anche quello. Ha fatto ballare anche gli attori, e posso assicurare che non sono ballerini professionisti. Ed è stata un'impresa ardua. Maurizio, cercano un ballerino, se ti interessa. No, assolutamente, io sono negato per tutte le... Beh, ma Claudia farebbe ballare anche te. Ha fatto ballare Maurizio, me. Maurizio, sei in buona compagnia, vieni, ti aspettiamo. Vedi, è già una tua fan, Maurizio. Sì, esattamente. Sentite, io vi rubo 55 secondi. Svolta. Ricevuto, apri il fuoco. Oggi è stato diffuso un video che mostra un elicottero militare americano mentre spara su dei giornalisti inermi. 12 milioni di persone hanno visto quel video. Pensi ancora che sia solo un piccolo sito web? Un uomo difficilmente sarà se stesso se parla in prima persona. Ma se gli date una maschera, lui vi dirà la verità. Al cinema, un thriller drammatico basato sui fatti di WikiLeaks. Pubblicazioni di informazioni riservate che hanno cambiato per sempre il mondo del giornalismo. Queste sono informazioni che il mondo deve conoscere. Il quinto potere, dal 24 ottobre al cinema MPX, in zona Duomo a Padova. Se volete la verità, dovrete cercarvela da soli. Per info e orari, multisalampx.it. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. 22:32, sempre Blu Radio Veneto, sempre con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavara, ma con questa marea di persone che abbiamo questa sera in studio, che ci stanno allietando la serata, presentando il loro musical, che, come ricordo, si terrà sabato prossimo alle ore 21 al Polivalente di Albignasego. nella rassegna Sognando Broadway. È un musical in concorso, quindi io personalmente non posso dire nulla. Maurizio, tu se vuoi esprimerti potrai sì, farlo. Sì. Aspetta che sento se sei sempre Giorgia, sei sempre lì. Sì, sì. Sono sempre qui. No, come ha detto all'inizio di trasmissione Cesare, bisogna ribadire questo, è tutto un musical inedito. E questo è molto importante e significativo. Io sto tentando, come sempre succede qui a Blu Radio Veneto, in questo caso a Blu Time Live, di cambiare la scaletta. Sto cercando di convincere le ragazze e i ragazzi e il capo coro e il capo regista, le due registe, a fare un altro pezzo. So che il tecnico non è molto d'accordo, però io sto convincendo di fare un altro pezzo. No, è d'accordo il tecnico. Adesso vediamo se riusciamo. In ogni caso abbiamo già un pezzo di scaletta da fare. Ritornando al discorso, le prove sono state tante. Una cosa tu hai detto giustamente, Emanuela, mentre qualche circa 10 minuti fa, il testo è nato sulle canzoni. Sì. E questo bisogna ribadirlo. Le canzoni sono state quelle che sono state il canovaccio, il trait d'union, la chiave di volta per imparare, per creare Al di là del vetro. Assolutamente. Noi ci lasciamo ispirare dalle canzoni, soprattutto dai testi delle canzoni, e dopodiché su questa canzone, su questo testo ci piace immaginare. Noi, io e Chiara, siamo due persone che di fronte a una canzone ci emozioniamo e cominciamo a sognare ad occhi aperti, e in questo caso è diventato un copione. E dopo il copione l'avete fatto leggere a tutti quanti? Sì, dopo, alla fine di tutto, è stato presentato. No, non è vero, dicono io. Non a tutti, a parte Filippo, non a tutti. No, in realtà c'è chi non l'ha letto, perché esatto, il copione era leggibilissimo e come si dice? Dimmi. Sì, che tutti potevano. Sì, sì, era disponibile. Era disponibile per no, tutti. No, nel senso, scherzi a parte, è stato presentato a tutti quanti gli attori, tutti i ballerini, tutti quanti i coristi. L'abbiamo letto assieme. Ci siamo trovati una sera attorno a un tavolo, il famoso tavolo del grande freddo, esattamente. Ed abbiamo letto tutti quanti assieme, accettando commenti, interpretazioni anche, perché poi la cosa bella di questo copione è che inizialmente non era così. È stato cambiato in... Sì, è cresciuto assieme alla compagnia, esatto, assieme ai vari spettacoli, migliorando di data in data ciò che c'era da migliorare, e soprattutto ogni singolo personaggio, ballerine comprese, l'hanno reso proprio. Questa è una caratteristica, vero Cesare? Adesso richiamo Cesare, perché è una caratteristica del musical, migliorare di spettacolo in spettacolo, allargare. Cosa dici, Cesare? Sì, il fatto deriva anche dal fatto che noi, facendo spettacoli amatoriali, non avendo modo di poter portare uno spettacolo fisso in un teatro e perciò studiarlo per quel posto, e invece dovendo andare in giro, certo, cercando di andare in giro, dobbiamo anche crearlo in modo da poterlo spostare, e allo stesso tempo però magari andando in determinati posti con il passare del tempo cerchi di aggiungere qualcosa o di togliere qualcos'altro a seconda di come vedi lo spettacolo, perché ovviamente facendo prove in sale prove fra virgolette improvvisate, perché ci sono pochissime compagnie amatoriali che possono avere un teatro per poter provare, e perciò si prova quasi sempre in posti molto piccoli ed angusti, magari senza scenografie, senza niente, e poi quando ti trovi sopra il palco e fai la prima data magari scopri che alcune cose si possono modificare, e perciò è anche tutto sommato può essere anche il bello di vedere questi spettacoli, che magari uno vedendoli due o tre volte si rende conto delle differenze e anche dei miglioramenti che ci possono essere. Perfetto, sì, è proprio questa la spiegazione. Ha detto benissimo Cesare. Esattamente. Anzi, abbiamo una chicca a riguardo. Esatto, noi essendo nati come gruppo parrocchiale continuiamo a provare negli ambienti della parrocchia, e dobbiamo ringraziare Giuseppe, perché noi tutto lo spettacolo lo abbiamo provato al bar del patronato, in ambienti strettissimi. E non al di là del bancone, no, proprio dei tavoli, spostando. Ma chiedevate il patronato poi, insomma. No, la cosa bella è quella, era pubblico, abbiamo fatto le prove. Sì, purtroppo gli spazi sono questi. Cesare, io volevo chiederti, cosa ti è piaciuto in questo musical che tu poi l'hai selezionato per far parte del concorso? Allora diciamo che la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che è completamente diverso da tutti gli altri musical, a partire dal fatto che, l'ho detto anche alla regista la settimana, cioè lunedì mi sembra che ci siamo visti, il fatto che intanto ha 3 atti. Una cosa non da poco, esatto, i musical di solito ne hanno sempre 2, E poi a me la cosa che ha colpito, come ho detto all'inizio, è il fatto di aver scritto un testo originale e averlo scritto in quel modo che potrete vedere sabato, perché io sono rimasto veramente colpito dai testi e dalle battute che sono riusciti a creare. Noi abbiamo fatto un musical che si chiamava Rockadelica, che l'avevamo scritto noi, più o meno l'idea che hanno avuto loro, cioè partendo dalle canzoni creare una storia, e so perfettamente quanto difficile che può essere scrivere dei testi, soprattutto che abbiano un senso. Beh, insomma, questa è una grande cosa, sì. Insomma, quindi onore al merito ancora di più, insomma, per questi testi inediti e la loro bravura. Esatto. Insomma. Vuol dire conoscere molto le canzoni italiane, cara Emanuela, o no? Sì. Anche quelle straniere, purtroppo. No, un'altra cosa che noi... Sto scherzando, cari. No, in realtà il mondo straniero ci dà un sacco di canzoni, molta più scelta. Certo. È una cosa vastissima dove noi potremmo spaziare, ma abbiamo pensato che, abitando in Italia, il testo straniero è meno usufruibile da tutti. Quindi noi, visto che vogliamo che le canzoni vengano capite nel loro testo, anzi ci piacerebbe che vengano riscoperte canzoni italiane, anche magari non conosciute. Certo. Pur essendo più facile probabilmente con una canzone straniera, ma con le canzoni italiane riuscire proprio a lavorare anche a livello di copione, inserendo il testo della canzone come parte. Se avete scelto, non so, nella scaletta che adesso stasera non ci sarà, non potremmo sentire, un pezzo di Vecchioni non così famoso, abbastanza non famoso, possiamo dire, la vastissima produzione di Vecchioni, dimmi. Non è molto conosciuto, assolutamente. Chiaramente avete scelto un testo di Vecchioni, anche lo stesso testo. La canzone. Mi dici il testo? La canzone è Sogna ragazzo. Quindi non è. Sì, è abbastanza conosciuta, ma non tantissimo. Come il pezzo di Baglioni stesso, che non è proprio conosciutissimo. Sì. Fa parte di quei dischi di Baglioni importanti, ma come si dice? Sì, un po' di nicchia. Cioè, certi pezzi, certe tracce dei dischi dei cantautori sono sempre messe al centro o verso la fine. Non sono, perché di solito si mette il pezzo trainante, il primo, o se no. Sì. Esatto. Il trainante è sempre il pezzo iniziale. Esatto. Che sarebbe questa? Come il sangue, nere come la notte. Sì, una cosa, Agostino, una cosa molto positiva, sono riuscito a convincerle. Fanno su questo pezzo qua. Questo? Sì, questo è un pezzo molto bello che io a una certa età me lo ricordavo. Cosa hai fatto per convincere l'Anna? Le vie del Signore sono infinite. No, devo dire che ci sono anche due mondi che si scontrano in questo momento, in cui le nostre registe dicono di testi, di copioni che partono dalle canzoni. Perché questo dà un grande filo da torcere a chi deve preparare i cantanti, come il buon Filippo, e chi deve adattare il coro, come per esempio io, perché e lo spessore delle canzoni e a volte le vocalità che si vanno a toccare con questi grandi cantautori. Ma c'è una particolarità, se mi posso permettere, Anna. Vecchioni è sempre stato un maestro, un professore, ha sempre lavorato, esatto. Ha avuto sempre in contatto con i giovani, e Sogno ragazzo sogna è proprio la fotografia esatta di quello che ha sempre fatto lui, e questo è molto positivo. Sicuramente è un pezzo adatto e è estremamente calzante con lo sviluppo dell'intreccio del musical. Della trama, certamente. Ci ha dato filo da torcere, abbiamo fatto del nostro meglio, sicuramente, insomma, siamo anche contenti del nostro risultato, e adesso... Sì, adesso lo sentiremo più tardi, sono i fan adesso, Sam Knight, come mai i fan, Caran? Perché avete scelto i fan? Come mai i fan? Allora, i fan, io svelo questa cosa. Io, quando ho iniziato a scrivere il copione con la mano, ero entrata proprio in trip con i fan. Io ho preso il CD, ero gasatissima, mi piacevano un sacco. E quindi una parte del copione è nata proprio con il CD dei fan. E alla fine abbiamo deciso di mettere, di usarli, perché secondo noi erano molto energici, molto giovani. E, soprattutto insomma, questa canzone... Noi la canteremo alla fine di tutto, secondo me dà un'energia pazzesca. Allora, chiama la canzone? Some Nights. Sì, devo spezzare qualche dozzina di lance per quanto riguarda questa canzone. È una canzone che ci piace tantissimo e che proprio dà anche degna conclusione, secondo me, a tutta la, la passione che viene messa in tutti gli ambiti, nell'ambito degli attori, nell'ambito del canto e del ballo. E, è una canzone che ci dà della, una grande adrenalina, anche perché, come sentirete, parte a cappella e abbiamo 20 lunghissimi secondi in cui abbiamo, c'è il nulla, ci affidiamo al alla provvidenza, non so, qualche santo nel cielo che ci dica che il tempo è giusto e che stiamo andando bene, quindi noi non sappiamo mai se viene fino a quando non viene. Di solito viene, e oggi insomma, se sapete qualche litania particolare, ditela per noi oggi. No, ma in verità siamo, noi ce la mettiamo tutta e poi anche se non va ci divertiamo tantissimo a farla e ve la facciamo ascoltare. Francesco? Ci sei, Francesco? Francesco, ci sei? Sì. Ci sei? Sì, ci sono. Quante sorelle hai tu? Io ho due sorelle. Che si chiamano? Beatrice e Rachele. Ecco, le hai salutate perché ti hanno mandato un messaggio, dice: grandissimi ragazzi, un saluto dalle sorelle di Francesco. Ciao! Sono Viola, grazie veramente. Allora, ci fate ascoltare la canzone? Preparazione tecnica e poi partiamo. Ah, ok, intanto io parlo con Giorgia. Giorgia, ci sei? Sei sempre lì. Cosa ne pensi di questo musical? Aspetta che chiudo, ti abbasso un po' perché... Ok. Some night I stay up, cashing in my bad luck. Some night I call it a draw. Some night I wish that my lips could be a castle. Some night I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, oh, oh, oh. What do I stand for? Oh, oh. What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Oh, oh, oh. This is war. What are we waiting for? Why don't we break the rules already? I've never wanted to leave behind. Set up for the black and white. Tried twice as hard and I'm up as high. But here they come again to check my style. That's alright, that's alright. I found a mother in my bed tonight. She stuffed my bones for wondering just why I'm who I am, who I am. Hey. Some nights I wish that it's old end, 'cause I could use some friends for a change. And some nights I'm scared you forget me again. Some nights I always win, I always win. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Soul for this, wash my hands and death for this. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear a song. Want to die alone or dry up in the desert sun? I was begging for my sister, the call that she called love. But when I look into my nephew's eyes, man, you won't believe the most amazing thing that could come from some terrible night. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Bravissimi. Una cosa che ha detto l'Anna, devi togliere la base quando lo dico io. È vero, ha tolto la base quando l'ha detto lei e hanno cantato a cappella senza la base. Bellissimo. Il pezzo non lo conoscevo, Emanuela mi ha dato una indicazione. Adesso ho capito che cos'è. Un inizio molto folk. Il nostro DJ, io l'ho chiamato DJ, parlava come fosse un rapper, praticamente. Cantavi come fosse un rapper, assolutamente. E lui una volta non voleva cantare. Lui non voleva cantare. Perfetto, è stato proprio molto positivo questo pezzo, io non lo conoscevo. E adesso l'ho conosciuto praticamente. Ringraziamo tutti i santi del cielo che hanno risposto alle litanie perché ci avevo. Si è divertito anche Cesare, l'ho visto che si divertiva, assolutamente. Bene, abbiamo scoperto ancora un'altra canzone. Quante canzoni poi fate alla fin fine durante lo spettacolo? 10. Ma insomma, non tantissime. E dura lo spettacolo? Dura in totale 2 orette più o meno. Tre atti, quindi. Tre. 40... Sì, poi dipende dagli attori. Tipo l'ultima data è durata mezz'ora in meno. Perché senti, ci descrive, chi è che ci descrive un po' come siete sul palco? Cioè, quanti siete contemporaneamente? Cioè, e anche per esempio il coro, cos'è? Giù dal palco, è dietro, com'è? Si vede? Allora, in questa data il coro si vede. Allora, in tutte le date il coro si è sempre visto, erano sempre... Il problema, come diceva Cesare prima, abbiamo sempre avuto qualche problema di spazio, quindi il coro solitamente era sempre sotto il palco. In questo spettacolo, invece, grazie al palazzetto di Albignasego, appunto, abbiamo la possibilità di mettere il coro sopra il palcoscenico. Da una parte? Da una parte. Quindi voi cantate tutto dal vivo, solo sì. Con le basi? Sì, oh, yes. Solo con le basi, sì. E quindi... avremo modo di averli lì, insomma, anche. Certamente. Anzi, li vedrete proprio bene questa volta. Belli illuminati. Una cosa posso dire in merito, perché quando c'è il coro che fa parte del musical così in diretta, io mi ricordo l'anno scorso con La Rupe dei Re, Cesare può confermarmi, che c'erano le persone sul palco, ti ricordi questo, certo, coro, certo. Questo coro di quante persone ci sono? Tantissime, sì. Erano tante persone. Circa 30 persone. Erano e poi vestiti tutti uguali con i costumi africani, insomma è stato veramente un momento molto emozionante che poi forse ha influito anche quello nella vittoria finale del musical. Quindi avere queste persone che cantano così tante insieme, molto bello, insomma, avere un coro, questa è una grande bella idea. Dimmi. Però è sempre un coro comunque, insomma. sì No, ma noi ce la mettiamo. Non sei molto tutta. Convinta? No, che siamo un coro sono convinta al 100%, sono anche convinta che siamo 10 però. Vabbè, insomma. Ho capito. Aumenteranno, perché no? Ah, ben venga, noi... cercando maschi con... Sì, maschi, anche perché il gioco delle armonizzazioni di queste canzoni è stato un po' complesso, in quanto noi abbiamo un coro quasi prettamente femminile, come diceva Emanuele prima. E quindi giocare le armonizzazioni soprattutto nelle parti basse è un po' difficile. Ci ha proprio fatto fare uno sforzo di fantasia, ma anche un bello stimolo, perché se uno fa sempre le cose facili si diverte neanche più. Certo. No. Luca, ti fanno i complimenti, finalmente ti hanno sentito cantare. Fateglieli. Allora, che soddisfazione sentire Luca cantare finalmente. Un abbraccio a tutti, Raffaella. Bugiardi. C'è scritto qui, non sono io che mi invento. Giorgia, tu ci sei sempre? Certo, sono canti, qui. Canti anche tu? No. Meglio di no. È già tanto il ballo e la recitazione. Che scenografia avete nel palco? Allora, abbiamo una scenografia mutevole? Sì. E come diceva appunto Cesare prima, l'abbiamo cambiata tipo, abbiamo fatto quante date? 3? L'abbiamo cambiata 3 volte. Sì. Perché per appunto problemi di spazio ogni Ma volta. Ma cosa, disegnato un appartamento? Cioè, sì, è formata da 4 pannelli in legno, sorretti in modi molto fantasiosi, che raffigurano appunto un appartamento e le pareti di un bar, quindi sono abbastanza neutri in modo da potercela gestire senza doverli girare o spostarli in vari modi. Ma sono tutti universitari questi ragazzi che sono dentro, che vivono? Quasi. Quasi, nel sì. Nel musical? Ah no, sì, nel musical la maggior parte siamo universitari o stiamo per finire. Nella stessa sezione? No. In vari ambiti. In vari ambiti, insomma. Bene, Giorgia, tu invece cosa fai come coreografie? Beh, oddio, che... allora. Quante diciamo volte che... sali sul palco? Tutte le canzoni. Tutte le canzoni. Il problema appunto che abbiamo avuto, visti i cambi di scenografia, sono stati regolarci con gli spazi, ma è sempre emozionante ogni tanto scontrarsi e far finta di niente e continuare, e visti la percentuale di persone che c'è sul palco durante durante i balli, però è sempre divertente comunque, non ci preoccupiamo di questo. Ma è una tua passione quello di ballare? Io non so che facce facciano da lì. Stanno ridendo, non ti preoccupare. Infatti, no, diciamo che, oddio, mi diletto in questa disciplina, ma no, con scarsi risultati molte volte. Ma oddio, l'importante è l'impegno. Certo, è la passione poi, insomma. Va bene, siamo quasi arrivati alla fine, insomma, sono le 22:53, abbiamo fatto mezz'oretta in più, insomma, abbiamo rubato un po' di tempo, visto che comunque Renato non c'era. Non so a chi fare questa domanda, la faccio a tutte le compagnie che passano qui, datemi un motivo perché una persona insomma, deve venire a vedere il vostro musical. Bella domanda. Allora, per quello che pensiamo è perché in questo musical ci sono talmente tante situazioni e storie, personaggi che sicuramente troveranno qualcuno a cui affezionarsi, proprio perché abbiamo messo dentro di tutto, anzi che avevamo paura di aver messo troppa carne al fuoco, che però alla fine riusciamo a far convergere in un finale comune. E quindi proprio per pensare, per rilassarsi, per divertirsi, per un sacco di motivi. Per passare 2 ore diverse dal solito e portarsi a casa qualcosa di importante. Certo, questa è una bella frase. Sì, certo, praticamente questa è la filosofia per cui è nata Al di là del vetro. Questa è la base, sì, di tutto è quanto. Dare il messaggio. Possiamo concludere dicendo dare il messaggio. Sì, dare un messaggio, però senza risultare patetici, no, nel dare il messaggio. Assolutamente, cioè, senza voler fare la morale a no, tutti i costi. Assolutamente no. Questo è verissimo. Avete qualche altra canzone in programma per salutarci? O... Sì, Vecchioni. Vecchioni, l'ho spinto talmente tanto che Vecchioni alla fine... giusto. Visto che abbiamo... No, ma se ne hanno due possono fare anche due. Ne possono fare anche due. Non so ne se la maestra del coro ha detto no. È già troppo con Vecchioni. Senti, no? Giorgia come ride. La senti? E se no, che gusto c'è. No, vi facciamo... Se no, possiamo svelarci proprio tutte le nostre carte. E adesso sì, facciamo Sogna ragazzo sogna, e penso che se il finale di questa chiacchierata era un po' il lasciamo un messaggio, ognuno può ritrovare qualcosa di sé, penso allora che questa sia la canzone giusta con cui finire, perché ogni strofa racconta un fatto, un invito che appunto Vecchioni e noi che gli rubiamo le parole, mm-hmm. Certo. Penso di interpretare il pensiero di tutti dicendo che alla fine può essere proprio questo l'invito che si fa a chi ci viene ad ascoltare. Vecchioni stesso dice: ho lasciato una poesia, quel verso puoi finirlo tu. È vero, verissimo questo. Questo non lo sapevo. Vecchioni è un grande maestro. È venuto a Padova. Sì, è venuto a Padova. Perché ho spinto i ragazzi a far sentire Vecchioni? Perché abbiamo visto io ed Alberto Prisco, nostro direttore artistico che salutiamo, l'abbiamo visto a Padova recentemente, che ha fatto la presentazione del disco nuovo, e lui ha chiesto ai ragazzi di parlare, di fare qualche domanda. Lui è sempre stato dentro nel mondo giovanile, è stato professore per tanti anni, ama il mondo giovanile, sogna è una sferzata al mondo giovanile. Un modo, ci siamo anche noi, ma però detto da Vecchioni è un bel dire, secondo me. 70 anni non portati benissimo, Roberto Vecchioni. Pandi, hai fatto colpo. Un saluto a tutti i ragazzi, bravissimi, in particolare alla Pandi, dalla tua età. Ciao Etta, è mia cugina. Ah, Etta, scusa. No, l'ha scritto in minuscolo perché pensavo dicesse età. Perdonami, Elisabetta sarà probabilmente, giusto? Sì, probabilmente. O Eta sta per Elisabetta? Il mio nome? No. Eta sta per Elisabetta? No. È un soprannome, comunque si chiama Elena. Ah, ecco, va bene. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa prima di salutarci? Se volete salutare qualcuno, non so, fare qualche invito a venire, non so. Vedete voi quello che volete, insomma. Chiara, tu? Ciao mamma! Sono qui. Innanzitutto salutiamo le nostre ballerine che non sono qua, a parte Giorgia che le sta rappresentando egregiamente, certo. Tutte quante. Esattamente. Puoi fare i nomi anche. Certo, delle ballerine. Sì. Allora, innanzitutto la Claudia, la nostra coreografa, senza di lei sarebbe stato un po' impossibile. Poi abbiamo Giulia, un'altra Giulia, Chiara, Marco, che è il nostro ballerino. e Silvia e Chiara, che è la, l'ultima di tutta la serie. Siamo in otto, Ambra. L'Ambra, cavolo, è vero, mi sono dimenticata, scusate, ho perso il conto. Salutiamo anche Raffaella, che ci sta ascoltando da casa, che è la nostra scenografa, e ringraziamo e salutiamo tantissimo Don Sergio, che ci permette di usare la sua, gli spazi parrocchiali. La Raffaella è quella che fa anche da ufficio stampa. Sì, esattamente, la lei. Ringrazio anch'io, perché ho collaborato, abbiamo collaborato moltissimo, insomma, e anche con l'Anna, ovviamente, ci siamo sentiti al telefono. Salutiamo anche Davide e Giulia, che sono altri due membri del coro, che oggi non sono potuti venire. C'è qualcun altro che manca? Avete qualcuno da salutare? E Maddalena. I tecnici? Sì, salutiamo anche Riccardo che sta lavorando per noi. E salutiamo anche Albertone che ha letto ammalato, speriamo no. guarisca. Beh, insomma, in bocca al lupo. Beh, certo, in bocca al lupo, ovviamente. Ecco, li ringraziamo per chi ci ha ascoltato, che ci ha fatto veramente, veramente, veramente piacere. Ecco, una sensazione bella essere qui in radio e sentire la gente che ascolta. Che vi ascolta. Ci siamo divertiti. Ricordiamo che, penso domani sera, insomma, si è inserito il podcast di questa trasmissione, di questa intera intervista, quindi se qualcuno volesse risentirla può ascoltarla o scaricarla gratuitamente dal nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, è integrale, quindi è gratuita, perciò potete ascoltarla e scaricarla ogni volta che lo volete. Ringraziamo anche Cesare che ci ha permesso di essere voi, che ci avete permesso di essere qui stasera, perché ci siamo proprio divertiti. Ma non sai poi cosa ti costerà, eh? Cesare, se vuoi dire le ultime due cose anche a te prima di chiudere. Allora, beh, io voglio solamente dire alle persone che ci stanno ascoltando, se vogliono venire sabato a vedere uno spettacolo, un musical, secondo me diverso dai soliti musical, e che penso però gli possa piacere, l'appuntamento, come abbiamo detto, è per questo sabato alle 21 al Palazzetto Polivalente di Albignasego. E ringrazio anch'io tutti i ragazzi che sono stati gentili e simpatici per questa serata. Sono stati qui anche mezz'ora in più, al caldo. Molto al caldo, d'altronde sono in tanti. Allora, non mi resta altro che chiudere, insomma, qui la trasmissione. Maurizio, noi ci dà un appuntamento giovedì prossimo. Sì, con te, no, giovedì. C'è ancora un messaggio, aspetta che te lo leggo. Vai, vai. È arrivato adesso, aspetta che voglio vederlo. Siete stati bravissimi, era come essere lì. E grazie ad Agostino per tutto, Raffaella. Ciao Raffi. Ciao Raffi. Ciao Raffi. Raffaella, ci vediamo, ci conosciamo sabato di persona, va bene? Allora, dicevo, ci sentiamo giovedì della settimana prossima. Sì, giovedì ci sarà una cantautrice. Sì, si chiama Valentina Valeri, viene con il suo chitarrista e un tastierista, se non sbaglio, e verrà a presentare il suo disco che deve, pensate, ancora uscire. Ci ha dato questa esclusiva, questa anteprima di circa una decina di giorni, prima che esca ufficialmente in disco, anche fisicamente. Si chiama, ripeto, Valentina Valeri, l'appuntamento alle 21 con il sottoscritto e con Maurizio, quindi si ascolterà musica dal vivo. Lei siamo quasi più vicino al rock, diciamo, sì, come tipo di musica. Dobbiamo sottolineare che mercoledì prossimo è molto importante per chi ama i musicisti di Padova, ci sarà Lubian che suonerà qui da noi, una cantautrice padovana molto interessante, musicalmente molto interessante, che viene a proporre il nuovo disco con, ci sarò io e ci sarà anche Flavio Bilatto ed Enzo, che praticamente è stato il nostro gancio per la Lubian, sempre diretto il tutto da Alberto Pisco, il nostro direttore artistico. Quindi, come dico sempre io, la più bella musica dove l'ascoltate? Qua, chiaramente qua. Va bene, ancora una volta ragazzi, grazie. Io non vi dico niente, lo sapete, non posso esprimere. Lui in regia non può dire niente. Io dico, io posso dire che a me è piaciuto molto e complimenti ragazzi. Grazie. Vi faccio il mio in bocca al lupo. Ci vediamo sabato e alla prossima, insomma, va bene. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Giorgia, mi sono dimenticato. Ciao Giorgia. Ciao Giorgia. Ciao, finiamo tutti, con Vecchioni, grazie. Allora, ok? Finiamo con Vecchioni. Benissimo. Parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano il fiume con il pensiero, in fanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna quando cade il vento ma non è finita. Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna lasciare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. Attraverso muri per farsi vedere. La vita è così vera, sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire prenderai un libro convinto ancora di vederlo morire. Sogna ragazzo, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passerà le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazzo, sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tante dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.